ma sono molto, ma molto più grandi di me. Per avere un'autonomia di almeno 300 watt, dice, mi voglio accendere un televisorino e non lo so, e le luci interne, ci vuole al minimo 4 metri quadri di pannello, e penso che non bastano neanche. Per quello non ci sono i gruppi elettrogeni. Io ce l'ho fatto il gruppo elettrogeno piccolino da 1200 watt, 4 tempi, quelli silenziati, ma l'ho portato presso, non si sa mai. Io l'ho portato, noi stavamo lì verso Stintino, anch'io ho preso quello silenziato, ma è comodissimo. Guarda, io ho invece quelli 4-2 tempi da 680 watt e ti dico una cosa, è una bomba, mi tiene praticamente tutto il campo acceso ed è perfetto. Ah, stavo dimenticando, c'è anche il bombolone GPL, qui non devi stare lì a romperti le balle con le bombole. Io faccio un carico all'anno e mi dura tranquillamente tutte le uscite che faccio, e c'ho anche il fornellone per arrostire a gas, penso un po' tu. Figurati, quindi organizzati alla grande. Un bel baracchino da 1000 watt lì e poi sotto a chi tocca. Ripeti, vabbè, come fai girare? E vediamo un po' che è rimasto, io non vorrei monopolizzare. Avanti, chi c'è? Io ho ripreso. Beh, ma ci vediamo, raccontaci. Ivan, non so di cosa stavate parlando perché, no, scusate, ma sono sceso dalla macchina e lo sapete, e non ho detto neanche che facevo bianco né niente, no? No, già l'ho sentito, mi ha detto sulla telefono, io l'ho sentito, infatti l'ho riferito agli altri. Stavo parlando di camper che Daniele ne sta prendendo uno, perché ne sta arrivando un altro per recuperare qualcosa, e io l'ho visto in fotografia su internet, e per quel prezzo da parte mia è un ottimo, è molto vantaggioso. C'era Giuseppe, che anche lui era mezzo intenzionato, ho detto valuta il discorso, perché per quella cifra lì non trovi di mezzo, almeno poi Sardegna, niente, non vedi niente. E il continente potete trovare, però deve andare a girare e rigirare, e poi alla fine deve andare su, tanto vale prenderlo. Cosa lo stava vendendo, c'era Stefano, il marito di Rita, che lo stava vendendo, capito? Mi sembra che l'ha già venduto anche. Quanto molto è di che anno era, te lo ricordi? No, di che anno era non te lo so dire, però so che l'hanno rivenduto 19.000 euro. E il suo era su meccanica Ducato, però non mi ricordo che marca era il camper, forse era un Ella, adesso non mi ricordo, però era su Ducato. Non te lo so dire, loro parlavano sempre di camper, però io non sono mai stato lì a dirle su che mezzo era, su, capito, non ho chiesto molte informazioni perché sono cose che non mi interessavano. Sì, però ma c'era l'altro giorno questo Salvatore che dice l'ha trovato, è molto amico di Stefano e di Rita, dice sono andati insieme a questo paese Lacuni o come si chiama, c'erano 40 da Sassari, dalla zona di Sassari, dei camperisti, da cui c'era anche Paolo, allora se ne ha comprato uno nuovo. Non lo so, vabbè, se l'ha preso nuovo o un altro di seconda mano, però credo che se ha preso qualcosa di seconda mano l'abbia preso molto più avanzato. Poi si fa sempre così, si inizia piano piano come tutte le cose, come hai detto tu magari da un baracchino piccolo, poi ti ha preso sempre quello più grande e alla fine ti ha preso quello che volevi tu. I camperisti fanno così, ne hanno uno per iniziare a buon prezzo, un'occasione, poi io sono ancora a quel punto lì, all'occasione del buon prezzo. E mentre Daniele sta facendo il secondo grado, la seconda classe, diciamo, ci avrà già un buon camper ed iniziare ne è passato un altro molto ma molto più evoluto. Io ho il carrellino per il momento ancora. Dove è il carrellino? È il carrellino, quello che attacchi piccolino dietro, capito? Dormo lì dentro. Carrellino appendice, come se siete dei cani, così. E allora? Ok, non so che c'è l'altro, riprendete. Beh, voi state scherzando, se vi racconto, allora sai come ho iniziato io? Siamo sposati, io quando eravamo fidanzati con mia moglie, da quando è che sono andato? Dall'89 in corsi, andavamo tutti gli anni, siamo andati per 17 anni consecutivi, non dico gli ultimi anni poi ci avevamo arrivati, erano gli ultimi, quando c'erano già le bambine, che eravamo già sposati. Prima andavamo con un fiorino, e avevo fatto un allestimento su fiorino, un camper a due posti, fluvettano fiorino tipo 127 diesel, che era avanti e abbassava i sedili in modo che ci stavi con le gambe, se no pensavo le mani, avevo fatto tipo dei ripiani in modo che potevi coricare, a volte tutti i materassi su misura, ma l'avevo fatto fare, ma un bel discorso, proprio un bel progettino. E siamo andati avanti, non dico non meno di quasi pulsione, una diecina d'anni con quel fiorino, però alla fine ce ne avevamo una fatta, però ti posso dire che mi sono divertito. Sì, perché le esperienze più belle poi alla fine, Robè, le fai facendo queste cose, capito, queste invenzioni così, e poi alla fine ti serviva giusto per la notte per dormire e basta. Infatti era così, più caldo, no? E nel pulito, nel senso, perché la tenda ogni volta deve entrare con i medici, un po' di sabbia, quello lì, e non era la stessa cosa. Siamo stati troppo bene, poi c'è una femmina, purtroppo non c'era più niente da fare, che si è organizzato con la tenda. Però ti posso dire, ci siamo divertiti, proprio siamo stati, poi ti spostavi, guardi, non dovevi neanche il tempo a smontare niente, ti chiudevi dietro, ti servi andare a camminare, devi fare la spesa, devi andare a verte una cosa. Con la tenda invece è un po' più complicato, quando devi andare, devi smontare tutto, eccetera, eccetera. Lì. Così col camper, quest'estate sono andato per la prima volta col camper, sicuramente abbiamo fatto i signori rispetto a come eravamo prima, che sembravamo la debolezza di come si chiama quelli che se ne scappano nel paese, quindi i clandestini, ma sembravamo, però ci siamo divertiti, non posso rinnegarlo. Ok, facciamo riprendere di nuovo a Giuseppe e poi per Daniele. Vabbè, io chiedo un attimino di Bianco di nuovo, che scendo qua una commissioncina veloce a lasciare un amico e riprendo subito. Ah, avanti Giuseppe. Chi c'era? Vediamo, Mario c'è. Facciamo l'appello, chi è rimasto? Avanti. Io. Mi pare ci siamo solo noi, forse l'argomento non interessava a nessuno, vabbè dai, riprendi Dani. Ho fatto fuggire. Tutti fuggiti, sono proprio. Adesso che palle questo, sempre parlando di camper. Sì, ma io sono un disgraziato, mi ha detto vabbè, magari qualcuno è interessato, c'era anche Giuseppe un po' interessato, ma molte volte capitava a me, senza volerlo, argomenti che mi interessavano a me, cazzo, stavi decine e decine di minuti parlando, poi alla fine anche due ti giravi, non c'era più nessuno. Infatti molte volte quando capitavano certi argomenti, dico, ci spostiamo da un'altra parte e lasciamo continuare in questo, perché molte volte può non piacere l'argomento a qualcuno oppure non interessare. No, se parli di donne, porca miseria. Beh, tu lo stai facendo scherzare, l'altro giorno ormai eravamo in due, è stata una ragazza, non so chi era, per un secondo, che quello si capiva neanche, per un secondo si sono svegliati tutti, anche gente che era mesi che non si faceva vedere, subito i cose, gli avvoltoi. Nappa, lo so, io mi ricordo quando ero fidanzato, no? Che allora mia moglie abitava nella zona dei Cappuccini e tante volte no, ci mettevamo d'accordo, accendi il baracchino a quell'altro, a tale ora, a questo canale, così ci sentiamo. Non c'era nessuno in quel canale, facevo chiamata, mi rispondeva, dopo nemmeno 5 secondi, tutti quanti. Lo so, così è normale. Io. Che poi magari la c'hai da moto, tu che moduli? No, aspetta, non so se sono 4 o 5 anni, questo è il quinto anno dovrebbe essere. No, allora no. Allora, perché io sono sposato dal 2000 e quindi fate pure conto che dal 2000 che non mia moglie non cioè che sta vivendo con me, quindi non entra più lì. Quindi non l'hai conosciuta. Il nominativo era Stefani. No, sono troppo nuovo, non posso dire. Ma io la capita invece per dire dove sei adesso o modulavi da altre parti? Papa, sempre qua. Sono nato qui e continuo a abitare qui. Ho tanti amici nelle zone tue, non so esattamente dove sei. Papa, guarda, ti do un... c'è presente dove è Setti? Dove? Setti. Setti? Setti, i negozi di materiale elettrico. Ma tu non mi hai detto che sei a Monteoro, scusa. Monteoro passo, da. Non sei verso di Pettitulli, no, pensavo fossi di lì in alto. No, negativo, in basso, molto in basso. Sì, no, stavo pensando, ma non pensavo fossi... C'ho tanti amici di lì che stanno proprio sotto i Pettitulli, qualcuno a fianco, c'è un'antenna a pochi metri da casa sua. Diciamo che per andare a casa mia devo prendere la strada per Canica. Tu sei dall'altra parte, diciamo, dalla Plaza Ritella. Sono passato, quando ero, un 15 giorni fa di lì, ero da, non dico anni, ma diverso tempo che non passavo a Monteoro, ma ecco quella strada che passa dove c'è il tradizio della RAI, che prosegue va dritta e poi si ricollega a quella di giù che porta a Canica. Uno schifo di strada. Com'era, la lasciata era tutto pieno di fango, di grosso, non era asfaltato. No, io un pochettino più vicino a Sassari di quella zona lì. E diciamo, vabbè. No, gli angolini non si dicono, dai, la zona è buona. Eia, va bene. Ti ho detto già se sapevi dove era quel negozio. No, no, non capisco, di cosa tratta? Il materiale elettrico, Sezzi. Sì, sì. Ma vuoi sapere niente, tu stai dicendo? Allora, la Sappio lo sai dov'è? È la Puglia. Diciamo in zona. Verso l'interno, eh? Non ho capito, il batterio elettrico lì in zona, non l'ho mai visto. Ci conosco benissimo quella zona perché ci passo tante volte, ci sono andato tante, però non riesco a identificare questo negozio di materiali elettrici. Tu partendo diciamo dalla strada dove va la piazzetta, che fa il ponticello per andare verso il parco Lumbano, ce l'hai presente? Sì, sì, sì, quel ponticello che c'è anche le vendite giudiziarie, lì diciamo. Esatto, esattamente dall'altra parte, proprio all'angolo, c'è Sezzi, materiale elettrico. Ah, ho capito, sì, sì, sì, sulla destra risulta, camminando, andando verso, diciamo, verso la piazzetta, però li trovi sulla destra, mentre le altre giudiziarie a sinistra. Esatto. Poi quante volte al giorno ci passo di lì non ne hai idea, perché passo sempre di lì per andare all'impunta, anziché fare tutto il giro, e parlo quando la sera vado io, perché io sono una squadra di calcio, c'è sempre il traffico, io non giro da 131, giro al bivio di corso dalla motorizzazione e faccio quel punticello di lì che sa passare cavalca ferrovia di lì e poi proseguo per il mercato all'ingrosso. Io in zona, ma qua c'è un mezzo, ma di chi è? Vabbè, sono di nuovo io. Ah, tu l'ho lasciato prima, dai, riprendi tu, dai. Sì, Tanca di Monsignori. No. Appena più avanti, cambio. Negativo, strada Fontana di Lugoibo. Lì, guarda, è un labirinto quelle strade lì. Io ci sono entrato una volta per consegnare del materiale, guarda, e ci vorrebbe il filo poi per uscirne. Vabbè, ma sei abbastanza tranquillo qua. Io. Dimmi una cosa, Roberto, te lo volevo dire, che barca hai tu invece, camminata? Sei ricamminato, dai. Capo, da quanti metri? Circa 6 metri. Sono un tratto. Tratto, ma massimo di... Chi vuole entrare? Scusa, ho detto, ma... Daniele. Ho detto che c'è qualcuno che voleva entrare. Sì, Massimiliano è entrato. Di nuovo, riprendi Massimiliano. No, finito il discorso, tranquillo. Adesso sono rientrato. Stai dicendo, ma cosa c'ha, cuccetta? E due posti letto, c'ha due più uno, dai, chiamiamoli due effettivi, dai. Ma fa anche il bagno o no? Adesso non me ne ho fatti nulla, posso mettere il chimico, ma non mi interessa. C'è la bandina all'interno, la doccetta fuori, basta, niente di importante, una macchietta piccolina. No, fa qui la culla fuori. Come? La culla fuori. Cioè, cosa vuol dire, aspetta? È che se devi andare in bagno, devi mettere il culo fuori dalla barca. Ah, sì, quello normale, è già stato fatto. È che io ogni tanto vado in bagno, mi giro il motore, a lei? Già lo so, quando c'è la spiaggetta dietro, ti vedi, già stai bene. E poi c'è anche la doccia vicino, se ti devi fare il video, ce l'hai. Ti fa portare, se non vedi altro, non lo riesce. Davvero, ti uscire in luogo pubblico. Ma ti credi che non lo fanno gli yacht, guardi i gridi, tutti quanti in bagno entrano, se devono entrare a fare il bisogno, cioè entrare, se devono fare un bisognino entrare dentro in cabina, quelli che c'hanno i soldi con gli yacht. Malati. Ma non penso che si muoverà con il FIFA, no, a cagare il Mario. Ma già Rubio, chi è che ha detto malati, avanti? Malati. Ma Mario, che lo sai che mi sembrava un'altra persona, Mario? No, io mi sto ascoltando, cioè a me i camper non mi interessano perché io, cioè ne ho visto di tutti i colori, ma io ho visto fare anche i camper con il fiorino come il tuo, mi... davvero, non c'è nessun problema. Lato. Quello come mio già è voluto, io quando il fiorino modello 127 mi ce l'avevo io in camper me. Io ne ho visto anche con 127, poi l'ho cassonato, fatto il vetroresimo al camperino e in estate quando andavano in piedi se lo mettevano sopra. Guarda, è passato qualche mese fa davanti alla mia officina, è passato un R4, ha fatto troppo ridere, con quelle tende, c'è presente quella maggiolina, tu, forse Daniele lo conosce, che si aprono, che sembrano dei, quei contenitori in resina, che rabbia dentro vai a dormire, sta parlando di un R4, poi dietro si ha messo, nel portabagagli di dietro si ha messo un palo, un'antenna satellitare e un'antenna di quelle direttive per la televisione. Guarda, è una cosa, ma pure zingaria questi. Vabbè, guarda, una volta ho visto uno di quei furgoncini della Ford, non della Ford, della Volkswagen, no? Un pochettino di quelli un po' nuovi. Allora, aveva quel cassone che si trasforma in tenda sopra. Dietro aveva, infatti non so come faceva a camminare, boh, proprio ultra carico. Dietro c'aveva un portamoto con un XT600 sopra e tre biciclette. Ma cazzo, sporgente al massimo, detto, come capo impennato? Così che ho visto questi qua della zona di Cagliari, cacchio, poi dicono che siamo pastori, senza offendere i pastori, perché i pastori sono molto meglio di noi, e sono venuti questi qua con un deli, questa famiglia, si hanno caricato il frigorifero di casa, tu dovevi che se ne hanno portato appresso sedie, sediette, coso, e questi dormivano la notte dentro il camper, dentro la cabina, quel doppia cabina era. Questi vestivano bene e loro uscivano, sembravano dei signori. Ma chiaro che dormivano dentro il suo coso, dentro, si mettevano tutto il giornale dentro, per non far vedere, dormivano, erano una coppia con due figli, dentro questo pedelli. Poi uscivano la sera tutti belli vestiti bene, cioè, se il vaderano c'è scia. Allora era una cosa, nemmeno gli zingari così, uno di quei frigo alti, quelli doppia porta alti, ce l'avevano messo dentro il campo, nel cassone dentro, poi ci avevano delle moto e uscivano in moto la sera. È proprio alla randaccia. Ti sono voluto dire, bravo il gol, tagliato Sassari, ha detto, mamma mia, sono lui, c'è tutti lì gente di fuori, gente milanese, torinese, che poi sono tutti andati di lui. Ma, cacchio, ha detto, mi, per forza poi ci dicono che siamo, cacchio, emigrati, clandestini, stanno vedendo certe storie. Guarda, io quest'estate ho visto una cosa a Pazzone, era verso Ferragosto, qualcosa del genere, è arrivato questo camioncino sempre sul daily, no? Cassonato, cazzo, sopra c'avevano di tutto, tutto coperto, cazzo, hanno iniziato a togliere roba, e tende, e frigorifero, e barbecue di quelli grandi fatti in casa, cazzo, era pieno questo camioncino, fatto detto, cazzo, boh, gli accampamenti di zingari hanno fatto. E non so quanto era la stessa cosa, sono portato due moto poi, e i figli erano grandicelli, neanche piccolini, se ne portavano uno o l'altro in moto. Guarda, era una cosa allucinante, ma quello che mi ha meravigliato, hanno portato un frigo a 220 volt, di quelli grandi, tutto la porta, tutto rugginoso, e lo tenevano sul camion, sul furgone, nel cassone, c'era una corrente nel coso, e poi loro si vestivano tutti quanti e li uscivano, sembravano questa roba, poi rientravano, ci mettevano il giornale dentro, sotto il parabrezza, nei cristalli, e le vedete, guarda, poi di quelli maleducati, caffoni, con lo stesso a tutto volume, proprio non ne fregava niente di nessuno. Purtroppo se ne trovano gente. Ma cosa vuoi? Guarda, se andiamo a vedere gente maleducata ne trovi tutte le foto. Io guarda, quest'estate lì a Pazzona, a Fiume Santo, ne ho visto, ma gente, ti dico una cosa, cazzo mangi, cazzo ritirati la roba, cazzo, piatti di plastica, tutto quanto per te, fate cazzo un porcine. Vabbè, riprendiamo, c'è la Massimiliano, riprendi tu Massimiliano. Positivo, vabbè. Ma io, Robè, io la verità, a me piace più la tenda così, secondo me, cioè, a mio gusto mi diverto di più in tenda. Tutto, esatto, con un mini camper, diciamo un furgoncino di Fiorino, io e mia moglie, come ho detto prima, proprio la randagia, però hai sito fatto bene. Poi non sono altre bambine e siamo passati alla tenda. La tenda è bella perché poi non hai rompimenti di scatole, ti sposti per andare anche in macchina. Però quando te ne devi andare devi smontare, devi mettere a posto tutto quanto. Quando arrivi devi stare poi preoccupato per gli insetti, per quello e per quella. Per certi versi il camper è molto migliore perché c'hai la comodità, c'hai tutto, ti chiudi dentro, zanzariere e tutto, però come ti devi portare vai sempre dietro barragione appresso, il limite è quello lì, dipende tutto da cosa devi fare, qualcuno gli piace la roulotte, a me non mi piace nemmeno se me la regali, poi ti stacchi dalla macchina e te ne vai dove vuoi, però sinceramente a me non piace, cosa ne dite voi non lo so. No, a me la roulotte non mi piace molto perché con la roulotte non devo andare a fare figlio dei fiori, la roulotte già non mi piace. Guarda, il camper è il camper e le robe, non è che non piace, non c'è la possibilità di acquistarlo, è quello, perché a me piace il camper, anzi più avanti sicuramente anche uno di seconda mano lo comprerò, perché c'è ragione, hai tutto pronto, capito, lì però dipende dall'uso che ne fai, robe. Hai capito? Se ti piace anche girare col campo e poni moto e parti e non hai problemi di smontarne niente, hai capito? È tutto lì dentro e via. Poi dipende sempre dall'uso che ne fai. Guarda, il camper, vabbè, io non so, perché ognuno poi già guarda proprio le sue tasche, però ne trovi di tutti i prezzi, naturalmente bisogna anche accontentarsi. Come costo, diciamo, per tenerlo non è più di tanto, perché ti faccio un esempio, il mio paga 220 euro all'anno di assicurazione e 34 euro di bollo, quindi non è una cifra esasperata. No, non per tenerlo, per comprarlo, capito? Per comprarlo poi giustamente dipende quello che trovi. Quello che trovi, se vuole sistemato, cosa vuole fatto, perché non è che tu lo prendi e lo lasci così. Puoi trovare l'occasione che non devi rifarci niente, ma puoi trovare anche quello che devi fare qualcosa, capito? Vabbè, quello sì, dipende anche da chi te lo offende, se ti dia una fregatura oppure no. Poi, ripeto, io lo sto vendendo il mio, però a me tirare i bidoni non mi piace, se c'è qualcosa, io sono abbastanza pignolo, e quindi se c'è una cosa che andavo, tum, e la cambiavo, mettevo nuovo, non... Poi mi è capitato di sentire altri amici che avevano comprato camper, questo e quell'altro, dopo un po' di tempo poi si è trovato, mi ha tirato una fregatura, il motore fuso, pure c'è questo rotto. Vedi, quelle sono cose che va incontro a queste cose anche, capito? Diciamo, se uno spende poco, ha poco, se spende tanto, ha tanto. Io guarda, un consiglio che poi non andare troppo in basso col prezzo, perché sennò trovi mondezza, ma poi trovi veramente mondezza. Io ne approfitto a chiudere perché c'è mia moglie che mi sta chiamando, sennò mi picchia forte, quindi approfitto a fare QRT, saluto a tutti, Roberto, ci sentiamo alle prossime, saluto, non mi ricordo i nomi di tutti gli altri, ci sentiamo alle prossime, riprendi tu Roberto. Ciao, ben sentito Daniel, quando vuoi, non ci sono problemi, siamo sempre qui, ho 21 altri canali, avanti nuovo Massimiliano e poi facciamo girare gli altri. Ciao, mi chiamo Fabrizio, voglio dire, Fabrizio, buona serata, buona carica, buon affare, buon tutto, avanti a chi tocca. Daniele comunque. Ah Daniele, scusa, adesso c'ho il metodo su Fabrizio, comunque Daniele, va. Basta, ciao a tutti, ciao. Ciao Daniele, buon tutto, buon proseguo, ci sentiamo alle prossime, bravi Roberto. C'era anche Giuseppe, non sbaglio, c'era ancora Giuseppe, sì. Sì, ciao Daniele, ci sentiamo presto, dai, buona serata e a presto, ciao. Ciao Robè. Sì, adesso noi siamo qua, dai, in zona dell'ospedale civile, un segnale con questo passaggio, Dante. Questo passaggio sono le 9:15. E con questo passaggio qua? Però forse stai saturando, ho sentito brru, cioè hai guadagnato quasi 10 punti, dai. Ho messo attrazione? Sì, adesso sei salito ancora di più. Però satura, giusto? Adesso sei arrivato 9:30 quasi. Però bella, ma non va bene. No, sei saturato. Avanti il becco, so. Ho rientrato, Roberto. Stavo dicendo poco fa, non ti ho seguito bene, perché è successo, Marcello, qualcuno stava disturbando per farlo, come è successo? Racconta. No, è successo che mentre modulava Pierpaolo si è messo questa testa d'agnello, è entrato, perché la radio non ce la deve buttare, sta uscendo male, boom, bam, non sai come stronzate. Poi riprendeva Pierpaolo e quello che continuava a sovramodulare, boom, alla fine io ho preso e me ne sono andato. Ma la gente che conosciamo noi? Ah, me ne conosceva, ha fatto anche il mio nome, dice, perché, Sai, Falchetto, un cavolo per un tema trapparaccio. Non c'è bisogno di sopra modulare, se non ti piace la radio, prendici il canale, non c'è problema, ti ho detto. Ma questo sul 21 è successo? No, su 5. Vabbè, magari sarà qualche camionista o qualcuno, perché occupiamo il canale loro, diciamo, cosiddetto canale loro, il canale no, non è di nessuno, di tutti, però si dà sempre la precedenza a loro, qualcosa. Ma se possiamo rimanere, anche qua sul 21, così evitiamo tutti i problemi. Ma io non ho capito una cosa, Robert. Prima sul 5, non abbiamo cambiato il 21, mi ha seguito il 21. No, per fa. E chi è questo, per curiosità, se si può dire? Certo, si può dire. Se saprei anche il suo nome e cognome, figurati stasera direi anche il suo nome e cognome. Si fa chiamare Gianni Dischetto. Tutta la sera con me governa via. La tua radio fa schifo. E mu. E sovramollava, mi sovramollava Falchetto, mi sovramollava a Gianni Capidue. Sentito questo qua io. Ma lo vuoi pensare nel paese o nel commento? No, lui diceva di essere un rappresentante, ma infatti io l'unico consiglio che gli ho dato è di prendere la radio sua, che poi tra l'altro usciva tipo citofono lui, di prendere la radio sua, metterla sotto le ruote cellulari e la poi volessi provocare con suo direttamente. Ma credo sicuro che se ne intende. Mi siete spostati e vi ha seguito pure. E allora, caso ci siamo spostati, perché poi qualche tempo passiamo al 21, siamo passati al 21 e ci ha seguito anche lì. E io stesso alla sovramodulazione. E mi stavo dicendo, alla fine io ho detto qualche tempo, io chiudo perché sennò casina guai. Senta, per curiosità, cosa stai usando? Adesso sto usando il Tarre più 3 con il Superstar. Questa sì che è una radio, anche se sei un po' troppo forte ti stai tirando dietro, c'è gente o qualcuno per visione, non lo so, una bomba è questa radio. Aspetta l'epo! Ciao, avanti Massimiliano per facilità. Allora, positivo Robert, no, per dirti là, che io sono arrivato qua, sto cercando un parcheggio, là. Una buona serata a tutti, io passo il correggio. Va benissimo, ok, alle prossime anche a te, quando vuoi, già siamo, quando ci sono, non ci sono problemi da parte mia, sempre ben accetto, ti rilancio la Falchetto e poi vediamo chi è rimasto, Giuseppe o chi per lui. Saluto Massimiliano, dai, tutte le prossimine, tutto Roger al 100%, dai, e rilancio ormai chi, non so chi sia rimasto, comunque venga avanti con la buona sera a Massimiliano purtroppo. Sì, grazie. Ci sono anch'io. Giuseppe, ti saluti per Massimiliano. Sì, grazie, riprendo il mic io per salutare Massimiliano, buona serata e ci risente presto. Ciao Massimiliano. Ok, dai, ciao, buona serata a tutti di nuovo. Buon Natale. Ciao Massimiliano. Buona serata, buon proseguo, alle prossime. C'era Pierpa al telefono, hai sentito la Pierpa? Finalmente, cacchio, come dico io, sta uscendo. Caspitina, buonasera. C'è qualcuno sotto che chiama, chi è avanti? Buonasera, mi usa la ruota a tutti gli amici e nemici. Ciao Domi, buonasera. Domenico, ben sentito, ti rilascio a Giuseppe, che sono anche chiamato alla tele. Avanti Giuseppe. Sì, grazie, ben trovato Domenico e ben entrato qui in ruota. Niente, volevo chiedere a Natalino stasera, quando abbiamo avuto il contatto, io a lui lo sentivo bene, tu come mi copiavi Natalino, giusto per una curiosità? Per essere lì, il mio riportatore si sta facendo basso, sia di radio che di segnale. Me lo immaginavo Natalie, niente, devo mettere rimedio io a quell'apparato, dai, e fai girare Natalie. Sì, non è l'apparato, l'impianto può fatto bene, dai. Sì, iniziando anche dall'antenna più lunga sicuramente, anche perché io, devo essere sincero, ti ricevevo a bomba. Sì, vabbè, ma non trasmettevi bene. L'apparecchio, quello lì, ti avrei dovuto sentire con quell'apparecchio non... Mi accorti meno per me, scusate. Comunque, capito. Invece ripasso sia del radio che di segnale, evidentemente è l'antenna che non va bene quella lì. K, Natalia, allora la sostituisco in via, dai. K, va bene. Ok, non c'è problema. Ok, allora niente, rilanciamo il mic a Gianni. Saluttoni Domenico, dai, un contrabbacco da parte mia, adesso vai copiando. Piano piano, trucca trucca, funzionare e ascoltiamo domani mattina se tutto coincide, dai. Ok, riprendi Giuseppe. Sì, grazie Falchè. Niente, io sono sempre speranzoso e aspetto ancora con la speranza che entri Pomponio per vedere un pochino che cosa riesco a combinare, perché se coincide il lavoro che mi ha promesso di farmi, niente, lo faccio combaciare anche con la sostituzione dell'antenna in questa benedetta barra pesante, perché niente, sono stufo di uscire così male. Riprendi tu, Pache. Positivo, dai. Se vuoi ti posso dare da 2001, così la provi e senti un po' come antenna, dai. Grazie Falchè, grazie di cuore, credimi. Io niente, quando l'ho acquistata mi sono fidato su di dove, dove ho acquistato il tutto, e mi hanno dato questa Midland LPC4, però guarda, un autentico fallimento, perché non riesco a uscire, io stamattina scendendo a Olbia ho incrociato colleghi, ma va bene, tu dirai, camminando quando ti incroci 5 km e fai in fretta a macinarli, però persi subito, mi capisci? Positivo, non c'è problema, se ti fai trovare in verticale ti prendi questa qua, così la metti sulla barra e vedrai che riuscirai bene. Se mi può dare anche conferma Natalino, dai. K, Falchè, K. Sì, non c'è problema, dai. Gliel'ho detto, quando è disponibile la facciamo, non c'è problema. K, Natale, io anche a te, più che, non so, inchinarmi alla vostra sapienza, non posso fare. Cosa dirvi? Grazie dell'aiuto che mi state dando, perché niente, magari anche a me un giorno capiterà, visto che pian piano anch'io, grazie ai vostri consigli, sto acquistando sempre più conoscenza, e piacerebbe anche a me un domani dare un aiuto anch'io a una new entry o una persona che si trova in difficoltà. Sì, infatti, va bene, non c'è problema, che quell'antenna è troppo piccola per quella barra. Allo sala dove abbiamo sentito a Vulcano stamattina, era a Campeda e noi parlavamo con lui, fatti il conto, a Bonorva abbiamo parlato con lui. Natalì, ci credo. Ecco perché io voglio far fare anche quel lavoretto a Pomponio, e poi mettendo anche una buona antenna ho risolto anch'io qualche piccolo problemino, vero? Sì, infatti. Non so di che lavoretto stai dicendo, cosa gli devi far fare a Pomponio? Ma Pomponio mi ha detto che 10 watt me li dà, Natalì. Ma ti conviene mettere un linearino, ti conviene lasciare l'apparecchio com'è e ci metti un linearino, da 100 va bene. Lo so Natali, però hai visto la barra com'è, e se poi mi crea problemi alla centralina? No, quello da 100 non gli fa niente, quando si parla di 1200 allora sì, ti posso dare ragione, infatti l'ha dovuto abbassare, ha dovuto prenderne un altro diverso, quell'amico là, perché dice che col 1200 gli saltavano le marce, ma erano 1200 watt però. KK, e beh, diciamo 1000 watt già comincia a essere una mezza centrale nucleare. E niente Natali, vediamo se riusciamo anche per questo linearino a parlarne in verticale e vedere un pochino anche come sistemarlo lì nella barra che tu oltretutto conosci molto bene ormai. Sì, bisogna vedere la situazione e si fa, non c'è problema per quello. Già quell'antenna c'ha un cavo che non serve a niente, perché ci vuole RG58. Infatti quando la toglierai per metterla in macchina ricambieremo il cavo, là, ce ne ho io RG58 buono e glielo mettiamo. Va bene così. Poi vediamo un po' cosa tutto riusciamo a fare, dai. Niente, facciamo girare, io non so se sia entrato qualcuno, e proviamo, niente, dai, avanti se c'è qualcuno che deve entrare. Sono io, buonasera. Ciao Gianni, benvenuto. C'è l'altro, adesso posso entrare, dai, tranquillamente. Avanti Natalino, buonasera. Ciao già, guarda, si è migliorato la radio con questo microfono. Alla grande, ma cosa gli hai fatto? L'ho dovuto tornare a aprire, era tutto messo male, tutte le sondature fatte male, allora l'ho dovuto prendere, mi sono anche guardato la bottiglia che adesso mi tocca riverniciarla, vanguarda, perché l'ho dovuto tutto aprire, invece di essere praticamente cromata, l'hanno verniciata sopra, è riuscito un po' di vernice nella bottiglia che c'è davanti. Ho sentito solo Marcolicoli. Vabbè, riprendi, chi c'è in rotta oltre noi tre? Ma c'era Falchetto, Roberto, non so chi altri ci sia, veramente non ho fatto molto ascolto perché stavo girando anch'io. Già, non ti saprei dire. Però diciamo a Falchetto e ci dirà. Avanti Falchetto. Gappa, buonasera Gianni, ben entrato da questa parte. No, niente, volevo dire a Giuseppe che non c'è problema per l'antenna. Quando vuole ci troviamo e gliela tocca, e così si piazza tutto e vedremo, con questa antenna uscirà abbastanza bene. Mi può dare anche conferma Gianni, vero? Gianni, cosa dici tu per l'amico Giuseppe? Dico, se la 2001 che mi devi dare è un'ottima antenna, il problema che dà è che secondo lui dove deve passare tocca a tutte le parti, capito? Questo lo vedrà lui, magari la terrà un po' bassa, non lo so, questo è da vedere, c'è proprio, lo sa che basta svitare, la curva appena appena antenna, non dovrebbe succedere niente, no già, cosa dici? No, non succede niente, no, svitare, poi pulire ogni volta. Appunto a quello, infatti l'ho detto all'amico Giuseppe che non c'erano problemi, la penna gliela davo io e così si metteva a posto un po' la stazione della farra pesante, dai. Sentiamoci comunque, niente, quando vogliamo noi in verticale, poi tranquillo che un accordo lo troviamo sicuramente, anche perché guarda, ne è un pochino vergogna perché quando incontro colleghi sembra quasi che non voglia rispondere, però credimi, come un fratello li perdo nel giro di 5 minuti. Non ti preoccupare Giuseppe, vedrai quando piazzerai questa antenna non perderai più a nessuno. Anzi sarà molto molto positiva, se questo poi può dare conferma anche Gianni. Come sono entrato? Quella rende, ciao Robert, quella rende moltissimo l'antenna, quasi quanto quella che c'è sul 7. Positivo, no, infatti tu che sei più esperto puoi dire anche all'amico Giuseppe, così se ne fa un'idea, dai. Te l'ho detto, è un'antenna pesante quella lì, è molto pesante come antenna. Se la piatti, ricordati di metterci qualcosa sotto, tipo una barra o una, anche, va bene anche una rondella in acciaio grosso. Ci ritaglieremo anche con la classico pacchetto natalino oppure Pierpaolo, vedete un pochino voi chi mi può dare una mano, magari vediamo il foro che c'è, perché ti ripeto, io nella barra pesante, come vi ho detto l'altro giorno, tipo scatolato sotto, e ha dei fori, non sono piccoli, e quindi una rondella riusciamo tranquillamente a metterla. Oh, lasciate una come mercoledì, c'è domenico, un attimino. Enrico. Avanti domenico. Non lo sento più, dai, continuate. Un rondellone ci vuole per non piegare la lamiera, Emi, capito? Perché c'è una base che è molto pesante, quella 2001. È un'antenna, insomma, rende molto. Se tu metti una linea retta da 100 watt, un 747 della GTE che ha MOSFET, va benissimo. Guarda, una bomba diventa la trazione. Bisogna solo piazzare bene l'antenna. Già quel cavo di quell'antenna non mi è piaciuto niente, perché già, invece di essere quello dell'RG58 è un RG58 bastardo quello che ti hanno dato in quell'antenna. Infatti quando ne ho dato lì per metterla nella barretta piccola gli cambiamo anche il cavo a quella PC4, perché sennò non metto gli pini. E cappa Natalino, infatti nessuno, non gli prendo più niente, perché io mi sono fidato di loro, mi hanno detto una buona antenna, un buon coso, anche perché io gli ho detto quando sono andato ad acquistarla, dammi un prodotto buono, e io niente, da profano mi sono fidato di loro. E ma se te la dà Antonio Falchetto, l'antenna quella lì è buona, per la barra pesante è indicata quell'antenna lì proprio. E cappa Natali, dai, intanto io adesso comincio a muovermi, domani stesso smonto il vano dove va l'apparato e col calibro prendo la misura del foro che c'è per questa rondella. Una rondella bella larga bisogna mettere, in modo che tenga bene la lamiera sotto dove tu attacchi l'antenna. Un rondellone lo trovi da carboni, lì ne hanno. Un rondellone bello antroso, li metti sotto e vedrai che va alla grande. In acciaio. Scusa Natali, il foro da quanto vuole, da 8 o da 10 del rondellone? Ma da 8 penso che batti, perché mi sembra che sia da 8 il foro. Cappa, va benissimo Natali, dai, riprendi tu, fai che. Positivo, dai, facciamo girare anche Roberto, riprendi Roberto. A te da 8, mi sembra troppo poco, non c'è l'attacco APL sotto. No, cosa APL, era 2001, stiamo parlando di antenna di barra. No, ho capito male, io ho saltato tra le altre cose. Niente, come non detto. Vediamo un pochettino, se il domenico poco fa l'abbiamo abbandonato, vediamo se ci sento sempre che non abbia attaccato. Ci sei domenico? Non c'è nessuno. Allora riepiloghiamo: Giuseppe, Natalino, Gianni, Falchetto, c'era un attimo Pierpaolo, vediamo se c'è ancora, vediamo avanti Pierpaolo. Non c'è nessuno. Allora riprendi, sarà Gianni e poi fa girare. E Falchetto, fammi una bassa se ti viene bene. No, mi viene male, perché mi si ho finito il credito e non posso farla già. Ho sbagliato, scusa, non volevo dire Falchetto, Giuseppe. Dimmi Gianni. Fammi una bassa, se ti viene bene. Una? Una bassa, un colpo di telefono, che ce l'ho scarico, se no ti avrei chiamato tu. Ah, cappa, sto arrivando subito, Gianni. Robè, riprendi tu. Vabbè, riprendo io per qualche minuto, dai, poi entrano poche. Mi hanno quasi preavvisato. Dice, Natalia, la bassa. Sì, che sono qua, non c'è problema, Robè. Questo che cos'è? Il turner. Cioè, quello di prima non hai toccato niente. Quello di prima, Sto e basta. Sono un po' più basso adesso. Sì, perché ero lontano parlando, dai, così bene va. Andrà bene, ma questo è lontano, più 2 è elettro da tavolo. Ehi, RSSB più 2. Ma questo che colore è? Celestino per caso? Ehi, anche il cavo già, lui è azzurro e il cavo è celeste, là. Quindi è quello vero, no, è un bel microfono. La capsula secondo me non sta andando bene per una tarina. È troppo blu. Sembra equalizzato, quando c'è un equalizzatore ce l'hai presente, ti sta tirando fuori la modulazione o te la sta sporcando. Ma cosa vuoi che ti dica? La capsula è la sua originale. Magari non si adatta all'apparato, mi puoi dire. Vabbè, quello può anche essere. Lei fa altre prove con altri baracchini. Non ne ho baracchini per poter fare una comparazione, diciamo. E poi, probabilmente che c'è sempre questo ronzio, non riesco a capire, o ti sta portando appresso qualcosa, tipo radiofrequenza, che mai riesce a entrare nel campo. Tutto è interno del campo, pulito, non ci sono spaccature, per quel caso, quando sono vecchi tendono a seccarsi. E infatti. Ma cosa vuoi dire? Che i suoi apparati accesi, basta spegnerli a vedere magari se sparisce. Avanti. Vediamo un po' se te spengo anche quell'alimentatore lì. Guarda un po'. E un pochettino c'è ancora. Non è insopportabile, però un po' si sente. Se vuoi essere pignolo si sente. Ecco. La Tirrenia è arrivata avanti dai grandi fondali della Tirrenia. Binomio 21, ci ascoltate la radio vera, con questo 48, copie. C'è Tania, mi è brutto, ragazzi. Sei troppo alto comunque, sta rinascando pure. No, non fa, è Luca che non fa, eh. sicurezza. Kappa, adesso abbiamo provato e spegniamo tutto. Bello, tutto azzurro. Bello però, no, in casa non fa. Mi dispiace, è bellissimo, però niente da fare, in domo niente. Kappa, vediamo se Gianni doppio rumbo è rientrato. Bisba. Ma c'è anche Mario, Mario Massa, andatosene. Giuseppe? Evidentemente sì, magari è andata a cena. Giuseppe, c'è ancora? No, fa anche prenditela. Ya, me la riprendo, dai. Niente, sono ancora al telefono, dai. Lasciamoli fare. È così. Niente, volevo dire, ma non hai mangiato, Roberto? Guarda, ho sgranocchiato qualche cosa, però devo rifinire ancora, avere ancora un po', stavo mangiando qualche fesseria così al volo, durante la conversazione, non so se ve ne siete accorti, però devo andare adesso a mandigare, dai, infatti era l'occasione per salutarvi tutti. Volevo aspettare un secondo a Pierpaolo, perché voglio sentire con Turner. Pierpaolo, ci sei? Io la mettevo. E io te ne muoviti, dai. Quanto mi danno fastidio le persone che hanno la possibilità di dire beh, perfetti, puliti e poi rumore, chi male aggiusti dei modulatori, eccetera, eccetera. C'è un tunnel. C'è un tunnel, che c'è un tunnel più tre. Eia, prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E beh, cosa vuoi di più tu dalla radio? Spiegamelo tu. Fino per essere pignoli, ma dico cosa vuoi di più? Stai uscendo benissimo, cosa vuoi di più? Non so cosa vuoi di più o no, pensa che ancora deve arrivare un altro, prova quel 48, è impossibile tenerlo a casa, è su una bomba, cazzo, ma no, ma c'è questo che ti fa sentire benissimo, pulito, niente da dire, ha bisogno di attaccare questa cosa e crearti problemi. Se te ne accorgi tu vuol dire che anche a quelli che ci avvicino di su, per cui tu dai il tutto e te lo usi per altri scopi, dai. Io ho detto, vabbè, vi saluto, ciao Pierpaolo, ciao Falchetto, ciao Giuseppe se c'è ancora, Gianni e eventuali amici in ascolto. Quello che è la parte mia, dai, che proseguo a mangiare, poi non so, non credo rientri, però se ci siete e ci sono anche io ci sentiamo, se no buon tutto per domani e buona giornata. Aspetto i saluti e se no pazienza. Avanti Pierpaolo. Ciao Roberto, ce la riascoltiamo tutta domani, dai, se coincide, avanti Dottorino. Ciao Roberto, ce la sentiamo le prossime, buon tutto. Avanti perché? Eia, buon tutto anche da parte mia, Roberto, ce la riascoltiamo tutta le prossime, buona carica, buon tutto, riprendi Dottorino. Aspetta che sono un po' incasinato qua e bisogna, ecco che sto spostando l'alimentatore, lo mettiamo in noise. Dai, il fischio. Hola. Avanti il fischio. E ha finito la bassa. Kappa. E allora Falvito, e ti mi conta. Tieni conto, Roberto ha fatto QRT, ha salutato a tutti, a te, a Giuseppe e compagnia bella, dai. E cosa vuoi raccontare? Te ne sei sempre trabaccando. Giuseppe un attimo di bianco che con la bambina ha detto che vedi subito. E più ci ha avvisato dai. No, io stavo lavorando dentro, non problema. Tu sei fortunato, invece ero fuori. Già, lo so che lavoro la maggior parte si fa fuori e non dentro, ma cosa vogliamo fare? L'importante è lavorare e star bene, anzi più star bene che lavorare. Io da qua sono riuscito a lavorare, mi sento risollevato, perché prima era sempre paranoia, boh, no, in casa non mi piace stare. Beh, ci credo. Ok, dai, facciamo girare per Natalino. Se ha messo a posto tutte cose, avanti Natalino. Ehi, ho messo a posto tutto là. Magava, dipende da Natalino. Ehi, capa, oh iaia. Ma cosa vuoi che ti dica? Non so cosa dire. Sono stanco morto, senza fare nulla. Niente. Non so proprio cosa dire. Ma non è già cavato montagne da fondo, invece non ho fatto nulla. Ci credo, ci credo. E vabbè, piano piano sistemo le cose, dai. Ciao papà, ben sentito, va. Vabbè, ti stavo ascoltando la prima. Come mi ascolti con questo 48? Come? Ti ascolto bene. Però disturba, la 48 disturba a casa. Chi è questo 48? Chi è questo 48? Non ho 48 a casa. Con amore. Ancora buonasera. Buonasera a tutti. Già vanno bene gli apparecchi lì. Anche l'antenna è molto valida, eh. Vale. Gira turbo, Sirio. Faccia a Gira adesso. E già da un bel po'. Ah, è una bomba, eh. A 5.000 c'è a fare. Ah, 5.000 già. Già la 5.000 Gigi Vulcano. Bomba già, come le cazzo, spinge in una maniera incredibile. Lo sento da tutte le parti, lo sento. Ah, non la fa la lente quella lì. Nazismo, quello la fa la Sirio. È una grande casa. Ma io non ho mai provato a tenere la Sirio. Dico la verità. Diciamo che le case che ho provato maggiormente sono la Sigma e la Lega. Le uniche che ho provato, diciamo, in maniera più... Diciamo, magari qualcuna forse l'ha avuta e non lo so della Sigma. Quella, non mi ricordo quella piccola che aveva in macchina di che cos'era, però la maggior parte l'ha avuta sempre Sigma e Lega. Belle antenne sono, vedi, con questa che sto modulando adesso è una Sirio, e arrivi in tre parti, è una Turbo 2000 Sirio, infatti ce la provo, me la torno a ricomprare, è troppo bella come antenna, fa la grande, va. Gabba gabba. Scusa, adesso, 48 è morto. Poi? Nada. Non mi vuoi splatterare. Ricordi i bimbi. È quello. Non piace. Beh, in casa non andava bene, molto non andava bene, andava bene, ci guardava tutto. Che abbiamo il morto. No, perché per Paolo mi stava facendo anche a casa da problemi, da far vedere male il televisore a fanno. In vendita. Ci lo vivi addirittura, te qua. Ma per Italia ti chiamato dei canali. Tutti i muri di silenzio rimane. Eppure, oltretutto, non si vede la televisione. Te qua. Al migliore offerita, io. E dopo un trattore, cazzo, quando spinge chitarra canzona. È proprio di cui parlo. Quello che c'è, c'è un modulatore, capo, tutto c'è, doppio modulatore, tutto. C'è il sistema di questo apparecchio qua. Ah, male finali a mostre, tutta una sargosa, ma dicevano che ci fa male, invece a quanto pare tutti mi stavano dicendo che va bene. Non dimentichi che non mi accusava, ero per di brecche, da tre ore c'era Roberto, c'era, non mi sentivano, strano, perché era con me esco dal parcheggio, cioè dentro il parcheggio granai chiamavo e subito mi sentivano, non mi intende. Ma cosa non ti intende? Io a chi non dà gli stesso? Magari non da cani bianco e non è per quello che non ti sentivano più. Io mi sono arrabbiato, ma chi sa chi non dà cani bianco, gatto a tutti chi c'hanno subito, è logico che uno se non lo sento, io ti sentivo abbastanza bene, infatti quando ti ho sentito ti ho fatto entrare subito. E infatti ho dovuto chiamare Natalino, perché se no non mi vado ad entrare, se passava a ping pong il mic. E lui stava dicendo che fa. Ho detto che ci avevo tutta la sera, mica c'è qualchetto. Uno che mi diceva che fa la mia modulazione faceva schifo. E Garia, lo riconosci? Sì, un certo Gianni Dischetto. Sovramodulava a KP2, a qualchetto. Si è stato trasferiti di canale e continuava. Allora ho chiuso, ho detto, ma se no casina. Ti sembra rappresentante, sta cercando il buon uomo. Ho già sentito questo Gianni Scherche, probabilmente lo conosci Luigi. Luigi lo conosce, anch'io l'ho già sentito. Deve essere amico di Luigi sicuramente. Te lo conosce sicuramente. Ti ho detto anche che va bene, il suo parere. L'avevamo accolto, no, bene così. E tanto lui ci stava. Non so cosa vuole. Che vogliono attaccare in briga, e poi quando c'è a fare uno che si rifugge la mano. E quel signore mi ha trovato, una cosa che faccio, non lo so, c'è che si può capire un attimo di gioio. Lascio la torna entrare che vado a cercarlo, mi ha detto che ci aveva un pace 100, io con la capo io il pace 100, ma se poi era imbecille la boia, va via, la morte come tu ci tocco. Infatti mi ha scritto, ma era trovato come ci tocco. Presura, lo stavi disturbando, forse lui allora si voleva attaccare per questo. Ma basta chiedere a Luigi chi è e dove lo si può trovare. Sei mal pesante, io già lo trovo, lo lascio parlare. Lo sento dove deve andare, vedrai che lo trovo. Infatti, basta accusare un di andendi e vieni subito. Era del fuggito che era la recita delle gallerie, la poi ha corretto lo tiro, vai, la poi ha detto che era preda niente, ma era impreciso. Ma vedrai che ti rifugi. Dai, io non so cos'è una cos'è, intanto più che altro è del 5. Il giorno che ci rifugio dove sta entrando, vedrai che lui mi trova lì a me. Avanti Giuseppe, la buonasera. Sì, buonasera a tutti e ben risentiti. Un saluto particolare all'amico Pierpaolo. Capo, buonasera Giuseppe, buonasera. Mi sentito da parte mia. Come mi ascolti con questo apparecchio? Pierpa, una bomboletta alla grande, una bomboletta pronta ad esplodere, cambio. Va bene, capo, riprendete perché io ne ho fatto che mia madre, se non mi sta stressando, dai. Mi Giuseppe, fa tutto sull'affare che lo sta prendendo per Paolo. Veramente? Ma... E allora se si può mettere d'accordo? Ehi, d'accordo è già fatto, se vuoi sapere il prezzo te lo dico anche adesso. La pagava. Quanto ho pagato, no, un centesimo di più. Va bene Pierpaolo. Quattro sacchi, quattro biglietti verdi. Verdi sarebbero quelli con un 1 e 3 zeri. Capo positivo. E di uscita Pierpa? Come? Quanto ha di uscita? 40 watt. Cazzo, e va bene. Modulati, ci credo, no? Qui stai arrivando che sei seduto a fianco a me, anzi lascia stare la bottiglia per cortesia. Bottiglia? Di leva. Perché? Perché sembra che sei seduto qui a fianco a me per fa. Ah, capo, dai, dai, no, fianco perché sennò mia madre non vuole la televisione. Che non è questo che disturba con la televisione in casa, dai, ci sentiamo adesso. Vai tranquillo Pierpa, e avanti Natali. Certo che quello è un apparecchio, la televisione la distrugge, va bene solo in macchina quello. Infatti, ecco perché stavo dicendo, ma una bomba veramente entrando qui dentro, è vero Gianni? Io pensavo che fosse volato all'inizio, davvero. Ciao, Gava, sì, grazie Gianni. Ciao Antonio e ben sentito, come va? Tutto bene. Quello schicchia forte, ma schicchia anche il televisore. Ci credo. Anto, caspita. Ma c'è l'altro, non è così, non è a quelli verdi lì. Ma 45 basso sono fatti. L'altro apparecchio invece non è così, non disturba. Quello perché c'è tanti filtri, tutte le cose, fa solo il pezzo di scotter e basta. Sento forte il radio, tutto quanto però no, non fa niente. Magari con i filtri che ha riesce a uscire molto meglio. E addirittura quelli lì glielo tolgono il filtrante di tuba a quei 48, gli tolgono quello, poi c'è il doppio modulatore che spinge un bel, quello lì è disturba, capito? Da tutte le parti disturbi con quello. Nappari, io non vorrei magari piazzando quello che, siccome io ho antenne intorno a me, non vorrei magari rompere le scatole a nessuno. No, vorrei mettere in casa. No, in casa di tutti, solo in camion lo puoi mettere quello, ma in casa no, non fa, perché distrugge 400 le vicinanze. No, allora no, cavolo, no, tenerlo solo in barra fissa, no, così, perché, mamma mia, poi il mio è anche bello in vista, figurati tu, ogni volta magari che trovo o qualche posto di blocco o qualcosa, devi stare sempre con i capelli dritti. No, lo spegni, lo riaccendi, diventa normale. Veramente? Allora... E poi ci vuole la calamita per farlo riprendere tutte le modifiche, capito? Gli passi la calamita e lui torna modificato. Se tu lo spegni, ritorna normale. Ah, bello. Allora questa è cosa che si può parlare tranquillamente in verticale, in maniera che ci si capisca meglio. Perché veramente comincia a interessarmi la cosa. Avanti Gianni. Giuseppe. Comandi. Ma così è normalissimo, è tornato normale. Sì, comunque ti sento sempre bene Pierpa. Sì, ma così diventa una 48 normale. Quello è in verticale, quando ne possiamo parlare? Quando vuoi. No, quando vuoi tu Gianni, sono io a comodità tua, anche perché io ti devo restituire sempre con la commissione. Vero Gianni. Perché? Ti ha chiamato già. Io ho preso il conto, 15 a 0 mi sembra, boh. Quanto siete pignoli, però, boh. Certo. Vabbè, siamo dei centri grossi. Guarda, adesso faccio, dammi un secondo, faccio una magia, gli faccio la calamita, guarda, Ulla. Ulla. Sono tutti così quelli, Giuseppe, perché sennò non ne vale la candela, perché c'è un interruttore magnetico dentro che ti toglie tutte le modifiche quando lo spegni. Ho capito, ma questo qui cos'è, 12 o 24? Sono trentuglio, Giuseppe, canale, tutto quanto trentuglio. A 12? Datemi un'informazione, ma questo qui fa 12-24? No, a 12 va quello. Ah, quindi dovrei passare anche un cavo? Devi fare l'alimentazione a 12 se lo vuoi far funzionare nella barra, no? Infatti, perché io quello che ho giù in barra fissa ha un interruttore dentro che va in automatico da 12 a 24. Io ho capito, riconosce l'alimentazione. Ma si può mettere quell'attoria lì anche in quell'apparato? Non lo so. Perché quella storia lì è veramente interessante, cioè senza avere riduttori e tutte quelle storie lì, perché mi sono informato, ma in diversi punti non lo trovi meno di 40 euro quel riduttore. Quanti Pierpa? Gianni? Io sono qua. Gava gava. Cosa c'è anche? Non ci vuoi Pierpa? Ho detto sia le luci blu. Beh certo, tutto blu è, tutto blu, tanto, è tutto, anche un mitero. Ma il barra pesante come si fa a alimentarlo? No, c'è un'alimentazione a 12. Da dove Pierpa? Dalle batterie, da una batteria. Questo qui con la cabina che ribalta, questo cavo, non lo strappa Pierpa? No, basta metterlo come c'è oppure ce lo compri. Cioè vendono l'alimentatore da 24 a 12. Sì, l'ho visto, però devi avere sempre quel famoso interruttore che ti devi anche ricordare di staccarlo. L'avevo visto sia su alla GBC che da Fusaro. Questo io non lo so, beh certo, bisogna ricordare che si sta caro sì. E a chi un po' di voci ne arrivi, credimi Pierpa, con la testa fusa e dal giro, e un po' di voci gatti io rientro a casa e dico, vai a prendere la mano, l'ho tirato. Dai, sta scattando. Non ne apre la mano quello, c'è il manettino. Che lo so, ma sempre tirato su vuole Natali. So, già lo so. Devi togliere l'aria dai freni per non andare la macchina. Cava. E il brutto è quando si dimentica di toglierla. Io non me ne dimenticavo mai, no? Oh Natali, con la comunicazione di servizio te l'ho procurata, eh? Come? Quella comunicazione di servizio per quella carta, per quello che devi presentare, te l'ho procurata. La carta? E niente, non è nemmeno poi così drastica la cosa. E poi devi farlo lì alla camera di commercio dove c'è il logo. Ho capito. Allora, per quella carta che devi fare, la lista dei documenti che ci vogliono, però è una pizzeria che ci vuole, non è che più che altro sono un paio di fotocopie e due fotografie che devi fare. Ok. Va bene. C'è stato un break. Avanti il break. Quando vai alla camera di servizio, Natali, comincia, fotocopie da può fare, e poi che fotocopie ci vogliono? Della patente del CQC, così? Sì, arrivo della patente di guida, si può ricordare una foto del CQC. Poi ho guardato la mia Giuseppe, cosa ci vuole? Che documenti ci vogliono oltre le fotocopie? Residenza pure? Negativo, Natalino, ci vuole il codice fiscale e magari glielo fai in fotocopia e glielo lasci. E due fotografie, la fotocopia della patente e un attimino che deve avere qui il foglio, un attimino solo. Guarda, così ci vado con tutto e vado e me la faccio. Eh sì, no, se devo bucciare anche me, non lo posso bucciare anche non la giuvizza. Buonasera a te, Giova. E allora, tuo figlio come sta? €380 perché prima mia figlia è voluta andare da questo, le ha attaccato il dente, però le ha detto che doveva stare il dente, non l'ha messo nell'acqua o nel latte e quindi si è fatto di un altro colore, le ha attaccato, però le ha detto doveva stare 15 giorni così e mi ha detto che 15 giorni andando a scuola con dente così non ci andava, si metteva a piangere, allora mi sta così. È voluto andare da un altro dentista, abbiamo pagato quello €80, qui siamo andati da un altro, tra l'altro €380. Come sempre, scatti da Giuseppe o no? Oh, ma Giuseppe mi capisco. Thank you. ministro Pompiele Afenol, che è una vergogna, cazzo, una vergogna, ma non ha dato quelli macchinette che già gli girano da soli, cazzo, il polo centrale, in macchinette, ma sono una cavolata, guarda, non si trova un piede in gamba e non la tirano a balla, il giorno che parto in continente me ne porto una cassa, cazzo. Internet. Io ho un casa Giuseppe. Volevo sapere cosa tutto ci voleva per quella carta. Giuseppe. Sì, eccomi. Risponde Nazzarino. Vuole sapere cosa ci vuole per fare quella carta. Allora, come detto poco fa, ci vuole la fotocopia della patente, due fotografie, il codice fiscale e poi niente, portare tutto lì alla infocamera, quella che c'è a Bretagneta. Ma non è in via Roma? No, negativo, io ho chiesto questa sera come sono rientrato e il collega mi ha detto che c'è quell'infocamera lì vicino al globo. E via Roma tu eri andato, no? No, la mia l'hanno fatta su a Pisa. Ci sei, Natalino? Aspetta. Ma io provo ad andare prima in via Roma a vedere. Se sono trasferiti, vado dove sta dicendo Giuseppe. Allora, quella di via Roma c'è sempre, però a quanto so io, e mi hanno detto e confermato stasera, che loro quel servizio lì non lo fanno direttamente giù a Bretagneta, dove c'è Globo. Ho capito, dai. Bisogna vedere se questo signor Pineda adesso è da Globo o è in via Roma, è quello il discorso. Niente, una guida telefonica e prova a telefonare in via Roma. Se questo signor Pineda è lì, magari ti avvicini lì, Napoli. Ma se non lo fanno quel servizio tocca andare a Bretagneta, vado a Bretagneta, là non c'è problema. Il versamento era 30 euro, così è. Ma il versamento non me lo ricordo, ti dico la verità, però ti conviene, Nathalie, prima avvicinarti lì alla cosa lì a Bretagneta e chiedere quanto è il versamento, perché non vorrei che magari facessi la fila alle poste e poi magari hanno cambiato qualcosa. Ma dici che si paga lì direttamente? Ah, direttamente tutto lì alla infocamera, ho capito, dai. E portati quella roba lì, te la fai tutta quanta in fotocopie, anche il codice fiscale ti fai le due fotografie, e quelle devono rimanere a loro. La fotocopia della patente, davanti e dietro la fai. Non del CQC, della patente, no? È positivo, CQC non c'entra niente, è proprio la patente quella normale. La patente. Ok, là, facciamo così. La pagava. Facendo, perché sennò se mi capita un mezzo che ha quel tachigrafo lì non lo puoi toccare, capito? Se non hai quella carta non puoi guidare, perché non c'ha il tachigrafo con i dischetti di carta, capito? Devi infilare la scheda lì e fa tutto lui. Quello si chiama tachigrafo digitale, cambio. Sì, non lo so io. Per Paolo, scusate un secondo, c'è ancora. Avanti, Pian. Vicino a te, magari su un altro canale ti fa abbattimento, se il segnale non è forte non riesci a riceverlo, oppure c'hai il QRM alto e Capri 2 non passa al QRM, capito? una delle due. Ma poi qui c'è un ripetitore anche vicino, probabilmente anche quello grida disturbo. Tappa, può essere anche quello Gianni, perché io un'oretta fa Capri 2 lo prendevo benissimo, abbiamo anche parlato. Capri 2, quanto ti arriva di segnale Giuseppe? Troppo le palle. come si deve con la rete. Giuseppe, avanti, anche Giuseppe voglio dire alza su tubo. Sì, va bene, riprendo un attimino perché adesso mi sono ricordato una cosa. Eravamo io, Capri 2, forse Natalino e Roberto. Voi mi pare non c'eravate ancora, sia Gianni che Pierpaolo. Vi dico che la storia che si doveva organizzare venerdì, mi sa che è saltata, Ma saltata, già ce la facciamo noi. Pronto, sì, sabato civile ce l'abbiamo tutti noi insieme. Da Sandrino pronti. Perpa. Erino. Aspetta del caffè. Ce la facciamo noi sabato, ma no, adesso l'abbiamo rimanata troppe volte, capito, tu sei d'accordo per sabato. Ce la facciamo questo sabato, poi se il prossimo sabato se la vogliono fare ce la facciamo di nuovo, non è che invece ho problemi per andare una volta in pizzeria e per stare in compagnia, me lo facciamo e ciccia, cosa vi dite? Ma guarda, io ti dico una cosa Gianni. Nara. Il discorso della pizzeria o delle cose è relativo, e più che altro si fa per stare assieme, ti passi un paio d'ore tranquillo, e ci si conosce, ci si confronta, e si discute, perlomeno io la penso così, anche perché io non sono un grande mangione, mi hai capito? Sì, vabbè, non è che questo di mangiare, io già sono mangione con la verità, ma non è questo di quello, capo due mi frega. No, scherzo. No, io dico la verità, io mangio perché mangio, mi piace mangiare, per me stare a tavola è l'unico momento di relax che sia, e quindi dopo che torno dal lavoro, diciamo, mangio non eccessivamente, ma mangio. Ma non è quello infatti, il problema non è quello lì. Diciamo che per socializzare, per stare in compagnia, è sempre naturalmente con gente accettabile, diciamo. Accettabile perché sono persone che se ci sono certe persone io non vengo. Io ne stavo parlando anche con Pierpaolo a inizio settimana e niente, se si vuol fare una cosa, che ne so, nel posto di mangiare la pizza fare anche un saltino lì da Sandrino, e non so se voi ci avete mai praticato lì, e si spende poco e si mangia bene. Chi è Sandrino? Dov'è? Sandrino, la fagheteria che c'è all'ingresso lì ai piedi di Monte Oro, sopra l'officina dei Vigili del Fuoco. No, non sono mai stato. Ma se non si mangerebbe pizza, lì cosa si mangia? Ah, lì guarda, puoi mangiare quello che vuoi, non per niente si chiama fagheteria, ma io ti ripeto, ci sono stato qualche settimana fa, perché mi hanno invitato lì, no? Però guarda, credimi, ma bello, porzioni super abbondanti, e spendi pochissimo. Poi guarda, spero che rientri Pierpaolo e poi ti può dire anche lui, perché dice che Sandrino è un loro cliente. Non lo so. Vabbè, ma mi basterebbe anche una pizza, non c'è problema. Non vado a spendere cifre esorbitanti, la verità è. A me infatti interessa stare in compagnia. No, non lo so lì quanto si possa spendere, ma non penso quanto mangiare una pizza. Ma penso che con 15 euro a testa ce ne usciamo, E allora già va bene. Si può andare. No, perché perché quel 10 euro si può mangiare anche al bullying, per dire, mangi calamari, patatine fritte, insalata, è una porzione enorme che non ce la fai manca a mangiartela, polpi, cotte, di tutto c'è, sino la frutta. Allora, prova a fare il giro per me dove battete la testa voi, la smatto anch'io. E non ho problemi, dai. E vediamo un po' se è rientrato Pierpaolo già. Il pianino dovrebbe essere già spento. Un attimo volevo dire, te lo stavo dicendo io già. Di andare al bullying. Se non è che se non è che si spende la stessa cosa a Sandrino, allora, perché noi al bullying quanto spendiamo una tarina due e prendo queste porzioni, quanto abbiamo speso l'ultima volta? Sì, poco. Già è una cosa abbordabile. Ma anche mi gatta, se non c'è attento non verrà mai nemmeno a mangiarti la roba. Ma chi a me mi viene un pochino alzata. Allora, bisogna sapere quante persone siamo, perché per sabato bisogna prenotare, per il sabato bisogna prenotare, sapere le persone che siamo e che siano le persone che aderiscono e vengano tutte, perché se no facciamo figuracce. E soprattutto quello, Gianni, io ti dico, su di me ci puoi contare, perché ti do la parola e quella è. E poi non lo so, prova a fare un giro di quelli che siamo e vediamo un po'. Capri, tu ci vieni? Facciamo due, tre io lo stesso, tu la tari. Io già vengo. Siamo in quattro, mi devo chiedere a Pierpaolo, Antonio, Massimiliano, tutti gli altri, dai. Roberto ha dato picche perché dice che era impegnato, eh. E vabbè, la pazienza, si farà la prossima volta anche con lui. Noi adesso ci mettiamo d'accordo, ce la facciamo lui, poi se lui la prossima settimana è libero si può fare anche la prossima settimana, problemi non c'è. Cappa Gianni, lì bisogna adesso fare un giro di contatti, perché ricordiamoci che domani è già giovedì. Domani è giovedì, infatti. Quindi bisogna, vabbè, come ci sentiamo domani, chiunque senta le altre persone è pregato di chiedere l'adesione, se vogliono venire ci faranno sapere, così almeno sappiamo chi viene e chi non viene, possiamo fare la prenotazione, anche perché Pierpaolo mi pare che sia il cugino, quello che cucina, quindi non gli costerà nulla farglielo sapere, dai. E cappa Gianni, non c'è problema per quello. Le cose sono buone perché io ho già provato la cucina, sono cose buone, anche se sono fritte, diciamo, non sono genuine al massimo, nel senso che la roba fritta fa male, ma una volta ogni tanto si può fare. Almeno stiamo in compagnia, poi chi si compra della pizza si prende la pizza, eccetera, eccetera. Io preferisco pagare 10 euro e prendere un pasto completo. Al 100% con gli altri. Poi faccio così, o mangio prima tutti i calamari, perché sennò si raffreddano. E poi tutto il resto, quello che viene dopo, patatine, insalata di mare, a volte cambia, c'è pesce o insalata di mare, poi c'è, a volte mettono frutti di mare tipo cozze, roba così, poi a volte la macedonia, a volte la frutta, ripeto. Cappa, allora ricordami di sedermi a fianco a te, perché se ti rimane qualcosa mangio anch'io, dai. Ma quello che mi può rimanere è l'insalata. No, per carità, guarda, ne ho mangiata poco anche oggi di erba. Io invece l'insalata ne mangio molto, oggi ho mangiato per dire bietole, fatte insalata, e a me mi piacciono, sembra una cosa strana, ma a me mi piacciono moltissimo. Buone le bietole, buone, i ravanetti io ci vado mamma. Anche io, Ravanetti, fidami, Ravanetti. E ci credo, caro, ma se possiamo portare dentro la mamma. Ma... mi chiede Natalino. Chiede Natalino. Quanti ne mangio la valigia? Anche a me ci abbiamo i puntini in occhi già. Facciamo a tali problemi ci sono. Non ci sono problemi. Facciamolo. Così almeno vedono. Vedono il tuo meraviglioso acquario. E adesso sta andando alla grande. Ma com'è, Raul? Ma e le aragoste ci sono dentro la palma? Ogni tanto vado, ne prendo una, me la cucino. Bene, andrà bene, porto giù la madera, allora, col Michel e vediamo un pochino di tirarmi su una. Allora, primo periodo che avevo l'acquario, ci avevo fatto bellissimo, tutto pieno di piante vere, pesci e cose del genere. Un giorno sono andato in questo reduttore di animali e ho visto che stavano prendendo delle aragoste e me ne ho preso una coppia. Ho preso questa coppia di aragoste, lo sai che mi hanno fatto i figli, Giuseppe? Caspita, in cattività alla grande. Se mi hanno detto in tutti i negozi dove sono andato a vendere i figli come avevo fatto, che era una cosa difficilissima. Vabbè, quelle sono tipo mostre bianche, ti è andata bene e vuol dire che anche l'acquario era tenuto bene, perché ce l'ho avuto anch'io per tanti anni un acquario. Guarda, credimi, ci vuole passione per tenerlo e se ce la metti te la ricambia al 100%. Io l'acquario ce l'ho una fitta, questo qui ce l'ho 21 anni, ma li ho avuti a casa di mamma, gli acquari, tutto quanto, quindi un po' già me ne intendo. L'unica cosa che facevano quelle aragoste è che ci avevano mangiato in 5 minuti tutte le piante che c'erano. Ci credo. Io adesso me lo devo fare un altro acquario, Gianni, però credimi, non so dove andare a prendere il vetro. Questa era una barbarità. Vabbè, guarda, è proprio vero, è che il calzolaio esce con le scarpe bucate. Vabbè, non era il caso di mio padre, ma non so dove andare a prendere il vento. Poi sono di su Vascone, ne scesa qua. Figurati che il mercato del mobile, no, la Master Classic, che ce l'hai presente a Bretagneta? Sì. Ecco, quando stai passando, fai molta attenzione, se dico direzione mercato all'ingrosso, no, sei sulla salitella lì e ti trovi sulla destra la Master Classic, rallenta e guarda il vetro che c'è antiproiettile che gli ho dato in conto a grazie per coprire quella vapa in cemento che hanno fatto. Ma un acquario con le controfalle, quello è già. Non l'ho mai visto. Tu figurati che è talmente grande che con la spinta dell'acqua gli ho messo un 19-21, no, come antiproiettile. E un pochino, nonostante tutto, a centro ha bombato. Non lo noti se non sei un intenditore, guardandolo. Però se ci fai, se hai occhio lo vedi, perché come acquario è grande. Ha bombato perché non gli avete messo i tiranti in alto. No Gianni, no, perché tutto a vista, il bello di quell'acquario è quello lì, e non per niente è stata calcolata la cosa, la copertura dell'acquario, e niente, tu devi vedere lo spettacolo che è. Capo, ma non so perché ti bomba, perché ci vogliono delle verghe come voi, le metti, che tengano da una parte all'altra l'acquario, in modo che ti tengono in tira, in modo che non te lo facciamo bombare. È sempre stato così. Poi io ne ho uno di acquario che, vabbè, non è artigianale, è fatto dall'aeroacquario, è una delle case costruisce di acquari superiore che ci sia. cioè forse la prima, senza forse, c'ha un retro che praticamente tutto l'acquario ce l'ho più di 21 anni. È spessore di vetro o com'è? Sarà un 5 centimetri. 5 centimetri? Kappa. 5 centimetri per lato. No, scusa, 5 millimetri. Ah, ecco, 5 millimetri già cominciamo a ragionare. E 5 centimetri, perché io stavo paragonando il tuo acquario a un 36-38, comincia a essere già un antiproiettile, e 36-38 si avvicina già ai 4 mm e lo monta il Banco di Sardegna nelle sue filiali, ed è praticamente un vetro che resiste a qualsiasi assalto armato. Bagava. No, ma queste qui sono state fatte bene anche le circolature e tutto quanto. Si vede che è un bel lavoro, non c'è sbavature, non c'è niente, proprio una cosa perfetta. Ma sicuramente quello con le ultime tecnologie non stanno facendo più siliconature, sono saldature fatte con la lampada quelle. No, no, il mio è proprio silicone chiaro, silicone trasparente. Sì, certo. Io ne ho visto fatti di acquari con le lampade, tipo con le lampade solari, capito? Ho capito. Cosa fa? Saldare il vetro? Eh sì, ci va un componente, no? Liquido nei bordi. E tu come ti avvicini la lampada, proprio non vedi nessuna saldatura, nessuna soprattutto cordonatura, come magari si vede molte volte, anche se ci devi fare molta attenzione quando metti anche il silicone. Trasparente quanto vuoi, però la bordatura bene o male la vedi. In questa maniera invece vedi cristallo con cristallo e nelle giunture vedi tutta la trasparenza, per quanto è lungo l'acquario. Oh, e se ci puoi sedere sopra che non stacca, eh? Lo so, ma l'acqua, boh. Il silicone forse è l'unica colla che resiste all'acqua. Sì, il silicone va bene, però ritorniamo sempre al discorso del progresso. Bisogna seguirlo. Anch'io quando sono venuti fuori questi componenti rimanevo un pochino così, no? E hanno saldato due pezzi di vetro con quei due componenti e avvicinata la lampada, dopodiché mi hanno fatto sedere sopra, tipo un seggiolino d'altalena. Ma sai come si stava comodi e non si è spostato di un millimetro. Meno male, se no sei caduto e sarebbe rotto il vetro e sei fatto anche male. Io non mi sarei seduto. Va bene, andate a riprendere. Sì, capo, io l'ho preso in città al mercato e funziona bene ugualmente. Avagava. Avanti, capo. C'è da 100 litri, c'è un altro tipo da 80, c'è un tipo più piccolo ancora. Non so se avessi la 80 già, comunque quel vino, ti posso dire che è grande, come se tutti lo pensano a fare la palazzo adesso, quindi sarà di nuovo anche di 100 litri, sai. Io vorrei fare una cosa invece. Allora, so che Capri 2 è appassionato di queste cose, però io voglio fare la prima stazione radio qui in provincia di Sassari, forse in tutta la Sardegna, e niente, e tutti chi in ferro, chi in legno e chi in qualsiasi maniera. Io la sto facendo preparare in cristallo dei mosse, dopodiché si mettono tutti i componenti dentro, iniziando dai circuiti stampati, dai fusori, a tutto, agli spinotti e quanto c'è. E niente, viene una stazione radio abbastanza carina e dopo vediamo un po' che cosa ne pensano quando la faccio vedere già. Appagata, si sono appintati, ma ci vuoi mettere in castonatura gli appari? Esatto, eliminando tutta la, diciamo, la paradamme che hanno adesso di originale, smontati e piazzati e fatte, diciamo, chiamiamole volgarmente, dai, per chi non è del mestiere, le scatole fatte in cristallo. Ah, le vuoi fare grigie proprio, come era il suocero che si vedevano l'ingranaggio. Cava. Bell'idea. Oh, quindi il mobile, tu l'hai visto dove ce l'ho io, la mensola che ho sopra per tutta la lunghezza che ha, e lì mettiamo tutta l'apparecchiatura. E poi qui sotto dove poggio anche il portatile ci sta anche qualche altra cosina, perché qui come stazione radio deve essere tipo la stazione dello shuttle. Quello che stavo dicendo, ma non vuoi fare i coperchi degli apparecchi in vetro allora? È positivo. Cioè, li devi lasciare in trasparenza che si vedano tutti quanti i componenti. Esatto, però fatto tutto alla perfezione. I fori dove ci sono le manopole del volume, dell'altro cosa se non mi ricordo, e lo spinotto del microfono, tutto quanto deve essere fatto in originale come lo vedo adesso. Vediamo cosa riesce la situazione, come riesce, magari illuminato di blu, con la luce blu all'interno sarebbe bene. Sì, con dei piccoli led colorati, giustamente alimentati dall'apparecchio stesso. Sì, si potrebbe fare. L'idea c'è, bisogna vedere metterla in opera. Il lavoro è lungo e attenzione, però visto e considerato che non ho vizi, non sto buttato da nessuna parte, quando esco dal lavoro sto qui a digiunare a casa e vediamo un pochino se riesco a far esplodere qualcosa. Ma per sabato la signora problemi non te ne fa, no? No, tranquillo. Cavaga, non vorrei distoglierti dalle tue abitudini. No, ci mancherebbe altro, è che quando non sono in compagnia, sto qui a casa, ti ripeto, non ho vizio di bar, non sto lì a casa, però se c'è da uscire con gli amici non ho assolutamente problemi. Non so se mia moglie è d'accordo, non c'è problema. Io diciamo che è una cosa più tra noi. Ok, ma noi si facciamo una banca barossa, poi a loro si possono fare una bancata. Kappa. No, che ci sputtano di brutto poi. Ci coalizzano. Andiamo. Se le cose non lo fa improvvisata, Sì, lo ascolto, però molto rumore di sottofondo. È come che sia davanti a una cascata. Senti, così? Esattamente. Ma è solo che ti faccia abbassare, se ti faccia abbassare il coso, l'RFG lo ascolti più basso. Prova a abbassare leggermente l'RFG a vedere. Fatela. Sì. I filtri. I filtri, guarda, ho messo anche quello della caffettiera sopra il paracchino, ma niente. Non è possibile. Gianni, lo so da faccio io. Quando devo organizzare, organizzo e non dico niente a nessuno. E poi lo faccio, capito? Come è successo con Gianni, una volta ha detto buca lo zemino già. Ha preso e ha buscato lo zemino da Porto Torres e lì gliel'ha dato un collega. Si è mangiata gli occhi, chi si chiede via, ma non via te l'abbiamo cucinato, di vino già. Prego. Eccoci. Cosa c'è quell'apparecchio? Quale? Si ghiaccia. Ho capito. Certo che c'è quell'apparecchio, ma si ghiaccia. No, ne stiamo parlando del mio. Ah. Quelli c'è la scorcia automata. Quelli te lo di... dove c'è quel... lo squash. No, lo tiri tutto giù e non ti crea QRM, capito? Lo so, Anto, però stiamo parlando del 48. 48 sì, ma io sto dicendo di quello, quello lì c'ha un affare, però c'è scritto squash, tu lo tiri. Gianni, di l'Antonio della situazione. E non senti più quello. Come parla la gente che si apre, capito? Proviamo subito, avanti capri due. Capivi che sabato stiamo organizzando questa pizzata, questa mangiata, non si sa che cosa sia. Sabato siamo tutti d'accordo per andare in pizzeria. Chiedi anche a Babbo se è d'accordo. Vabbè, ne parliamo quando ci sentiamo per telefono, per cosa. Già ne parliamo lì, dai. Capito, ma non è che tu c'è da capri due, no? E ti toglie il QRM, perché se capri due non lo senti, non lo senti e basta. E quello lì sono i televisori, sono. E capito, Giuseppe? Cioè, sicuramente anche perché il tuo capo, basta, te lo volevo dire da poco fa, solo che ho lasciato parlare. Il tuo capo praticamente passa anche vicino ai capi della televisione, basta che un solo televisore manda un pochettino di scure. Cioè che siamo, cioè perché io ne ho uno qua che fa così, l'accendi e aumenta il QRM, che è una cosa impressionante, ne accende un altro e va bene, e per quello che lo fa, molti televisori mandano un sacco di porcherie e ti aumenta il QRM, tutto qua il discorso. Capanto, adesso riesco a capire perché prima lo sentivo benissimo a capri due. Il televisore di cucina accesa ce l'hai? No, questa è spenta, però l'impressione che sia con le antenne che ho sul tetto, Anto. Ma può essere anche, perché siccome il capo, ho visto che passa vicino ai capi dell'antenna del televisore, se te l'avevo dire di distanziarlo un po', quello che scende dal tetto, forse che vi sia un televisore che crea troppo QRM e ti fa quel difetto lì, come l'accendono anche nel palazzo, ti fa quel difetto lì, tutto qua il discorso. Vedi un attimino che mi assento, perché sto facendo una cosa. Capa, non metterti problemi, vai già. Veda, faccio un attimino di bianco che sta accendendo il computer, lo se compro solo, devo comprare una cosa. Andrà bene, Mela. Capito mai, capri due, cosa faccio io? organizzo e via. Una volta vabbè un poco di roba e no, che ha già detto, già io andiamo a campagna, si era giubitato a campagna, abbiamo attaccato, ha giubitato a Luca, a Rombigliate abbiamo cucinato a Ruggio in Tressa, due piedi a Gianni. Prego. Che si vengono poco poco che no, che quando organizziamo no, non si fa nulla, bisogna che agisca in diverso modo. Mi sembra che c'è stato un break, fanno venire avanti già. Sì, sì. Non avete rilanciato una volta, non avete rilanciato una volta, aspettiamo. Ciao Falchetto, ben sentito. Adesso non lo ascoltando via. Annaggia la Marina, annaggia. Ah, fuzzitini, a tua, fuzzitini, gatta. Se no ti faccio schiattare e ti faccio parlare con muro. Hai capito, me lo be? Ah, fuzzitini, che fa che quando vai in pensione ti rilassa. Non c'è problema, sarebbe stato solo quello il danno. Ok, approfitto per salutare a tutta la ruota e io me ne vado in QRT. Ciao ciao, ruota le prossime. Ciao. Ok, to sabato stiamo organizzando una pizzata. E dove? Al bullying, penso. Già, vi lo confermo domani, grazie, sono lì per darci vengo. Vabbè, come vuoi tu. Noi andiamo, poi, se ci viene ci fa piacere, se no pazienza. Ok, andiamo bene, avanti Capri 2. Il cameriere è mio compare, il cugino di Coso è il cugino di Pierpaolo, quindi insomma riconosciamo tutti, ci trattano di lusso. No, perché sono tutti quanti dipendenti di Capredù e non possono fare nulla, ma almeno ci trattano bene, per il pizzaiolo invece di se ti fa la pizza invece di mettere due gambetti se ne mette quattro. Abbiamo organizzato qua, abbiamo mangiato lo stesso, abbiamo preso e abbiamo arrossito di brutto, senza neanche a tirare la ronca. Poi il fatto di Natalia ha sentito un profumo dello zimino da sopra e è sceso subito. E c'è venuto anche lui. Prima, la seconda volta pure, quando ti hai bevuto tutto quel vino, che eri un ubriaco fragico. Ah, era un po' legato. Ma com'è la tua inquietante? C'è giù parato io, Ma ero un po' negato, poi ho visto che io la prendo a ridere, faccio ridere quando sono sbronzo. Sì, ma non eri sbronzo, no? Era per allegroso. Un litro me l'ho bevuto, tu te ne hai bevuto un bicchiere di quel vino, quasi un litro. Sì, perché io non è che beva molto già, ci sto attento. Manco io bevo molto, solo che il giorno è capitato così. Siamo andati oggi a trovare i cittadini, gli amici che ho parlato all'epoca, con questi cittadini virtuali e un altro cittadino di andiamo in questo caso, non può essere Capri 2. dopo è scappato. Ripeta a Giuseppe. Con facevo con l'antenna, con l'alta 275, stile in acciaio, molle in acciaio, il mollone in acciaio. Allora ce l'aveva Agostino, un amico mio. Nel 127 blu, sembrava proprio la macchina polizia, lui l'aveva fatta apposta secondo me a mettersela così per sembrare carabiniere, poliziotto e così via, perché allora c'avevano le civette 127, non mi ricordo se era la polizia e carabinieri, i carabinieri mi pare, c'erano 127 civetta con quell'antennone lì. Sai che passavano le battute, salutavano, insomma, guarda, ci divertivamo un mondo. E vabbè, ti facevo un tipo di servizio segreto. Veramente a palla, buon baracchino anche. vuole incontrare questo qua per stringergli la mano. Ma non può vivere che fa, io te lo vedo. Di Pierpaolo. lo cambio. Oh, ma che sta zì, io so Geppi, sentite la modulazione Geppi. Ma chi sei Geppo il Forne? Oh, vale. Nara. Vado a far culo a parte mia. Chi è questo? Oh, so Geppi, ma mi ascolti, sono Romano di Roma, sono venuto qua in vacanza. Geppi, qua è molto parale, fai cavare. Ma che sta di tu, mi sei come stranito? Capa, io sono venuto qua in Sardegna, ho sbucato. Ma mi pare che tu sei qua. A me mi pare che tu sei qua. Ho sbarcato ieri notte. No, è un paio. Non so con chi sta a parla. Fratellino! Ehi! Vado a far culo a parte mia! Ha detto che parla, vado a far culo. Oh, ma che sarà di? Antonio, ti faccio tremare il perizoma, eh? Ma vado un zitto però, eh? Vado un zitto. Oh, non ti hanno mandato a fanculo, è manco. Dimmi che hai fatto. Che non è il romano, si capiva. Pierpaolo. Sai perché anche io c'ho un po' di amici romani, quindi il romano proprio lo conosco. Yeah. perché stavo ascoltando, era una macchinetta. Beh, presente una di come come deve soffermare il taglio maggiore, meglio se è quello, ma se spavente, se spavente, se spavente, non stavo là. Se è che andavo a vedere, ho detto, una. Mi ci mettete di tutti i colori. Oh, Pierpa. Ehi. Era per il domanda, la piscina. Ah, tu me l'hai detto, tu? 2 minuti di un corso era, una bottina in facciata. E mi ha detto, scusa, aspetta, Elena, a venire in casa da mi ha detto tutte le altre cose, non parli, eh? Non parli, non c'è parole. Please. sembra scientifico. Hanno visto, sono scena lì, si riferono proprio a noi, quindi guarda, che cosa la gente, l'ho visto troppare. Insieme a loro, dai. Avanti Giuseppe. Sì, grazie. Giusto per dire che quando si trova quella gente in mezzo alla strada bisogna rimanere anche un attimino tranquilli e io ne so qualcosina direttamente. A me mi hanno detto che avevo sbagliato, avevo fatto l'infrazione, gli ho detto se ho sbagliato non c'è problema. Io li sbaglio e l'ammetto, metto vada solo perché è autista, la conosciamo. Infatti anche a me quando mi fermano mi dicono lei è un autista, vada, capite che ti controllano tutto dalla A alla Z. A me mi hanno perseguito da Porto Torres perché ho fatto una cazzata io, c'era il semaforo rosso, però girando verso la griglia ti risulta verde. Io sono entrato lì e poi sono uscito dall'altro semaforo che era lo stesso verde. Mi hanno visto e hanno attaccato le sirene, ma non mi si... va bene, ma molte volte già fanno molto, molto spettacolo e io anche un cognato che nella stradale sta nel nuorese, ma per carità, guarda. Io ho un amico che non era stradale, però mi ha detto che lui quando era in servizio era bastardo. Lo so, tutti dicono così, però loro devono... devono ricordarsi una cosa, che la divisa la devono tenere anche quando vanno in pensione. Cavagava. Comunque loro faranno il lavoro e facciamo il nostro. Pazienza, a me un vigile, sai cosa mi ha detto? Devo scaricare un ristorante, la roba. Gli ho detto un attimino, metto il secondo a filo, un secondo solo, ho stato di scaricare, lui mi ha guardato, non mi ha detto di no, quindi. Ho preso, stavo scaricando, esco fuori e mi mette la multa. E gli ho detto, così, l'ho anche detto, lei faccia il suo di lavoro, io faccio il mio. Complimenti, No, perché te stavo lavorando, non è che sto giocando. Lei faccia il suo di lavoro, io faccio il mio. Io ero mio, me l'hanno fatto la stessa cosa, mi ha fatto andare via il gatto, ha giunto di entrare, andosene armato, ha avvicinato i sacchi, se no non potevo caricare, non un negozio di animali stavo scaricando, e va più roba bizzante il buco gatto, e l'ho dovuto attendere quando se n'è andata per poter scaricare, solo questa mi faceva la multa, una lassaglia. Ma che pesci per lei? Di tutto, adesso non me lo ricordo, ma non lo studio davvero, era via 20 settembre. E allora ci andiamo a visitarlo qua. Infatti. Ma via 20 settembre c'era anche l'acquario natalino, sarà stato lì. E mi sembra proprio, adesso non è tanto tempo fa. Ero col furgone in seconda fila. Tutta, vada via, se no gli metto la multa, papà. Guarda, se quando incappi con la gente lì non c'è niente da fare, girala come vuoi, che tanto hanno sempre ragione loro. A me me l'ha messa due volte nello stesso punto, la stessa guardia, e alla fine gli ho detto che tutti l'aiutino come lei ha aiutato a me, non gli ho detto altro, perché ho messo la seconda volta, però mi dovevo stare zitto, ma nel momento ero nervosito e gli ho detto così. Ma non gli ho parlato male, gli ho detto che tutti l'aiutano come lei ha aiutato a me. E mi ha messo la seconda multa, sono andato alla principale, gliel'ho presentato tutti e due, gli ho detto guardi, la stessa guardia, io non ci posso più andare in quel ristorante a scaricare perché cioè, questo qui mette sempre le multe, non c'è mai il parcheggio. E mi ha detto principale, cazzo, io 28 anni non ho mai bisogno di multe. E adesso, cavolo, due multe di seguito, due giorni senza guardia, ora questo ce l'ha con noi. Ha preso un altro comando, ha fabbricato discorso superiore, l'ha chiamato e gli ha detto che io ero prepotente. Quando mi ha chiamato il principale mi ha detto così e così, ha detto che tu gli hai risposto male. No, non gli ho risposto male, la prima volta me l'ha messa la multa e mi ha detto che di fare il mio lavoro, che io non facevo nessuno. E gli avevo anche chiesto se potevo parlare. La seconda volta mi ha fatto incazzare perché per la seconda volta, nel secondo giorno, due giorni di seguito mi ha messo la multa. E allora gli ho detto che tu ti aiuti quando ne ho bisogno, come li stai aiutando a me. Così gli ho detto e basta. Ma questo qui ce l'ha con noi, questo è qualche cosa gli abbiamo fatto, questo è con l'altro. E comunque il comandante gli ha fatto il tuo. E ha fatto quello, quello è un bello schiaffo morale alla faccia di quel bastardo. Sì, ha tutti e due, però questo qui tuttora quando lo vedo ce l'ho sul gondolo, ci credi? Ci credo sì, però ricordati sempre una cosa, che questa gente prima o poi la trovi tranquillamente, perché io ne conosco uno che guarda, forse manco io in 26 anni di camion ho cambiato tante gomme come le ha cambiate lui. A un certo punto la gente si vendica secondo chi trova e poi in piazza, quando vado in piazza a scaricare lì al baracciaro e porto l'acqua, questa roba qua, bibite eccetera eccetera, e quando vado lì ci sono tutti i vigili che mi dico un attimo solo col dito, non mi fa va scarica, fai in fretta però è l'unico che non ti fa scaricare, mi ha fatto fare il giro, l'altro giorno mi ha detto c'è più giù il carico e scarico me, c'è che c'è preoccupato da una macchina, è quello che ti di mettere la busta. Oh già, ma il discorso è che quando stai lavorando, lo vedono tutti che stai lavorando, mi hai capito? Non è che stai gigionando, come si dice dalle mie parti, no? Ma viene normale, quando, anche se sei in doppia fila, è normale che ti devi fermare perché devi scaricare. Se non c'è posto cosa fai? Ma io è difficile che mi fermi da più, se trovo un buco mi infilo, però se non c'è posto, oggi ho dovuto scaricare 72 colli di pelle a un signore, mi sono dovuto mettere mezzo strada per scaricarlo, e poi è venuta una macchina, non ci passava, un casino, ho dovuto fare di nuovo tutto un giro, qua, una via di merda. E ci passano le macchine giuste, e mi sono dovuto spostare per due volte. Guarda già, io te ne dico una, io scarico a Porto Torres, sia in via Petronia che in via Palai, e poi vabbè c'è un altro nostro cliente che rimane puoi entrare nel cortile, quindi scarico all'interno. Allora, in via Petronia, sai dov'è? E li blocchi tutto. Lo so, detto dove c'è il campo ancora. Esatto, poi il secondo carico lo faccio in via Palai, lì addirittura si era puntata l'azienda dei trasporti pubblici che non potevano deviare i tram, no? E sono venuti i vigili e mi volevano prendere la patente, no? Infatti gli ho detto, voi fate così, intanto mettetevi la macchina in un posto comodo e allontanatevi dalla gru, ho detto, prima che magari innervosito come sono, ho detto, dalle vostre cazzate che state sparando non vi arrivi qualche colpo di gru sulla macchina. E così andate lì. E niente, c'era più bastardo che a tutti i costi voleva la patente, no? Ho detto va bene, ho detto tu fammi scaricare prima, poi vediamo un pochino cosa devo fare. Una volta che ho scaricato il camion l'ho lasciato lì, no? Il tram ha fatto il giro, perché il giro lo doveva fare, e ho chiamato la stradale non è venuta e ho chiamato i carabinieri. E i carabinieri hanno dato ragione a me. Io mi posso immaginare, avete le attorno, se no? Stava. Già ho capito, conosco sia la moglie che il marito, ma anche due, ci serviamo noi di... cosa vuoi farci? Per dire, una volta un camion della Sisa stava scaricando la merce, e non c'è altro posto per scaricare, lì via Piemonte, non so se ce l'hai presente, si è messo... il scavo era giusto, però come allungava la pedana, le pedane idrauliche, per scaricare il roll. E arrivava sino alla curva, praticamente. E questa macchina cosa ha fatto? L'ha visto Carrighetti. Ha preso, cavolo, fa la curva e si è fatto la fiancata. E mi dice, non sai cosa gli hanno fatto? Gli hanno preso la patente perché siamo in curva, un sacco di casino. Gli hanno messo una multa un po' grossa, perché dice che lui deve mettere i segnali, che sta scaricando, che qua, gli hanno fatto un bel studio. Ha detto, scusi, lei mi dica, con quattro assi come faccio qua a fermarmi da altre parti, io devo scaricare. Si arrangia, non sono problemi miei, sono problemi della vostra ditta. Io faccio il mio lavoro e lei faccia il suo, oppure io le dico sì. Un giorno lì a Porto Torres uno mi ha detto così a me, no? Lei ti passa il suo lavoro, io faccio il mio. Lo sai che cosa è andato a fare quello oggi? Dopo due minuti che l'ha detto è andato a bloccare il traffico, perché ho detto, allora, visto che lei deve fare il suo lavoro, al posto di stare a rompere le scatole a chi sta lavorando, vada a deviare il traffico all'inizio della via, proprio lì in via Palaini. Allucinante, via Palaini da chi fai? Via Palai c'è coso, c'è vetreria, vetreria Rozzetto. Sarebbe la vetreria Torres, lo stesso, quella che c'è anche a Satellite. Ecco, quella che è a Satellite è proprio vetreria Torres, era lui con il suocero. Adesso ci sono dei ragazzi, ma che lavoravano da lui lo stesso. Ma quella di via Palai? No, è quella di del Satellite, quella che c'è, non me lo ricordo, via Rosier, no, non è via Rosier, via, non me lo ricordo che via era. Comunque è quella che rimane via Satellite, dietro la farmacia lì. C'è lui e il fratello, tu stai dicendo quella che è affianca l'agenzia funebre? Esatto. C'è lui che è il titolare più il fratello che è di Ossi. Poi c'è un ragazzo con i capelli lunghi che lavorava lì. Lei mi sono fatto fare il coperchio per l'acquario che c'era in plastica, me l'ho fatto fare in vetro, le vestite con la carta nera adesiva. E capa, adesso quel ragazzo è da noi. Ah, da dove sta lavorando? Quello che aveva i capelli lunghi? Sì, quello che ha i capelli lunghi, la codetta, sì. Quello di Porto Torre? E capa. Ragazzi. E l'altro che ci lavorava insieme, chi era? Il fratello? Sì, il fratello, in pratica tre fratelli. E lui è venuto a lavorare giù da noi e adesso è rimasto l'altro. E anche quello lì viaggia perché quel ragazzo lì scende da Ossi. Vabbè, quello che ho sempre conosciuto con lui, quando c'avevano la vetreria lì, sempre a Sardegna. Esatto, e ancora prima ce l'avevano dietro dove c'è il circolo. Sì, già l'ho conosciuto sempre perché lui viene a pensarti, ogni tanto che aveva della scia cosa fare la marcia con la sponda bassa da lui la paravetri. Vabbè, buoni clienti. Bring, facciamo la vetraia, mica di questo lasciare così. No, assolutamente, è così che si fanno i soldi già. Comunque va, non c'è altra gente, facciamo girare, siamo trattenuti troppo. Effettivamente è così, dai. E avanti Natalino. Io sono dalla stazione numero 2 perché mi sono messo a letto, va. Andà bene Natalino. E Pierpa, ci sei? Ciao Fabio, sono qua. Sono qua in ascolto, vai. I vetri. Io sono andato a lavorare alle 9:30 e ho pensato tutto. Sono come si è arrivato. Ah, Natalino, su barra pesante trasportando Pierpa, trasportando vetri, te li immagini? Non ci vado da correre quel vetro, e comunque è tutta una questione di abitudine di manovrare con i vetri. Non è che sono molto attento, però non so, non manco così, con gli specchi sono d'accordo. Gli specchi, guarda, si rompono come cristalli, non è un problema. L'unica cosa da fare è cercare di prendere meno fossi possibile, come ho fatto io scendendo a Olbia oggi, però per carità, uno ne mollavo, io altro ne pigliavo. Sì, è molto andata bene quella macchina. Lo so, e Pierpa, già ammortizzata bene, però Dio mio caro, guarda, già non ce ne vogliono fare di coso, di strada nuova, però dico, non ne vuoi fare, ma asfaltala almeno, Dio mio caro, ma io penso a me in Nicolo, ma tu prendi quelli che scendono in moto, Pierpa, e che veramente c'è da ammazzarsi in quella strada lì. Piano piano, arrampicarci. C'è il Capri 2, il parcheggio da un po', avanti Capri 2. Devo prenotare. Allora, io faccio una cosa domani, metto la portata e così non ascolti nessuno. Va. Fai come ti pare. Pare. Ma perché il telefono non esiste? Adesso vado a sera, vengo sotto casa e tu metto la portata. Va bene, chi? Che il telefono, tu metto la portata anche al telefono. Quell'antenna, come mai hai tutti questi problemi? fa tutti questi problemi, Pupù, sin quando sicuramente non facciamo quella cosa che abbiamo parlato l'altro giorno. Se tu sei d'accordo e se sei sempre libero per sabato, per me va bene. Sì, d'accordo, ma dove viene l'antenna? Qualche appartamento, dove l'hai piazzata? È sulla capota, però sto uscendo troppo basso, perché come ricezione è perfetta, mi hai capito? Chiaro, sì, sulla capota, avete piazzato la capota sotto, le parole per massa proprio non ce la dovrebbero essere, poi per proprio il problema della 24 volt. Si può anche eliminare quello, basta prendere il più di una batteria e meno dell'altra, e c'è 12, te lo porti direttamente su nella cabina, c'è 12 volt. Eh sì, quello sì, Pupù, su quello sono perfettamente d'accordo con te, però io quello che non riesco a capire, perché io anche in lontananza, mi capisci, ricevo benissimo, proprio mi spacca le orecchie, però per uscire esco poco. Perché non c'è il watt. Esatto, perché non ho watt. Ed ecco perché io speravo che tu entrassi stasera, Pupù. E comunque quello si può vedere subito. Se c'è il watt non c'è, se il problema di baracchino. Basta provare l'altro baracchino di macchina e si piazza lì. E vediamo se il problema è quello. Se lo progetta si controlla tutto, l'impianto e eccetera eccetera. Dalla batteria poi al limite se c'hai 24 volt non si può suonare. Si porta la 12 con due cavi grossi, diventa 12 volt come vuoi tu. E ti piloti sia lineare, sia l'apparecchio se ti uno male di piazzi lineare. Ti hai capito? Con un tavolo da solo sei più tranquillo. Naturalmente io quel lavoro l'avevo fatto già di Gipone una volta, perché lui c'era la 24 con il camion. E un giorno appena ha comprato questo micro, l'ha pensato a 24 ore, quanto è durato, o 5 minuti è durato. Ma quello che io compro ha aiutami a dire, il mio funziona sia a 12 che a 24, ha un interruttore, adesso non mi ricordo come si chiama, e io quell'apparato lì lo vorrei lasciare fisso in camion, perché è comodissimo, mi hai capito, avendo già incorporato il 24. Commutatore. Esattamente, commutatore di tensione, bravo. Ed è comodo perché non ne devo mettere con la scatoletta famosa che tutti quanti, sia la GBC che Busaro, che tutti quanti mi hanno fatto vedere. Sì, lo so, c'è il tensore 24-12 in pratica. Ho capito quello, ma non è che c'è tanto bisogno di quella gente, bastava aprire due fili dalla batteria. Il più della prima e meno della seconda, e c'è 12 volts, se sei tranquillo. E così è finito il problema, come fanno tutti. Il problema sai cos'è? Portare il filo dalla batteria alla cabina sopra, e la c'è la cabina che si può anche spostare, cioè si può la chiudere e aprire, e quindi passare questi fili, e fare un giro strano, capito? E certo, quello è il primo di problema, il secondo è un altro, Pupù, che la macchina è ancora in garanzia, mi capisci? E certe movimentazioni ancora non le posso fare, perché mi sono anche informato giù alla Mercedes e mi hanno detto ancora di non toccare niente. Quindi ecco perché io dico, se cambiando l'antenna, che una l'ho già procurata, una buona antenna, e buttandoci dentro un pochino di watt in più in questa apparecchiatura qui, io sono a posto, anche perché, attenzione, le nostre prestazioni non è che mi interessano, ma è giusto anche per sentire i colleghi quando sono fuori. Già ho capito come mi stai dicendo. Va bene, vediamo di fare qualche miracolo, Giuseppe. Tanto non ti posso dire, vediamo di fare qualche miracolo, adesso vediamo un po' sabato con il problema c'hai, con test lo vediamo, è quello che si può fare, se la macchina è ancora in garanzia non tocchiamo nulla, per il momento, al limite si piglia tanto c'hai l'attacco di sigla 24 volt, ti prendi un coso esterno e da 2 ampere e mezzo ti prendi un coso esterno così, costa una cazzata, uno di quelli, momento opportuno lo prendi o lo piace sopra o lo elimini, fa quello che vuoi. Comunque così. Ma mi sembra come ti lo sa, tu non pensi avere anche l'attacco dello stereo, ma è incontrabile, giusto? Sì, sì, i collegamenti sono già tutti a posto con voi. Io problemi di alimentazione per l'apparato non ne ho, mi capisci? Ho già gli spinotti pronti e tutto quanto. L'unica cosa che devo fare io sabato è darti l'apparecchio, oppure se non vuoi venerdì io te lo lascio anche da venerdì in maniera che tu ci puoi lavorare tranquillamente e poi mi sostituisco l'antenna, dopodiché lo proviamo con voi. Sto pensando, ma l'alimentazione non si può prendere quella dallo stereo, non penso che lo stereo ha un valore 24, ma andrà a 12. No, negativo Antonio, stereo a 24 volt come il tachigrafo digitale, controllato col tesser dall'elettrauto, perché me l'ha fatto lui il collegamento dall'impianto ai fili che escono per il baracchino. 24 volt allo stereo, ma sono esauriti questi. E come Popò? Assolutamente, qualsiasi stereo non va a 24, ma va a 12, non va a 24. Hai capito? Ma sono esauriti questi della Mercedes, cosa facciamo? Popò, misurato con le tessere, attenzione, presi i fili che entrano sia nello stereo che ho, che nel tachigrafo digitale, 24 volt, puliti, puliti, puliti. È una cosa assurda, mai visto una cosa del genere. Allora ci vuole un impatto per forza, c'è un impatto, un coso. Da 24 scende a 12, sia per uno sia per l'altro, ci vuole. Vabbè, se ho potuto calare una forza di comprare con l'aggeggio. Sì, ora lì si può fare la modifica come vuoi. Sì, va bene, perché del coso non c'è problema per l'apparato, perché quello ha già il commutatore interno, hai capito? Prima di fare ulteriori spese, io avrei voluto provare con lui un attimino compatto e già con questa antenna che mi danno, mi hai capito? Mi hanno detto che è un'antenna buonissima. Va bene, io comunque prima di modificarti il barattino voglio installarti l'antenna. Una volta l'antenna è installata, si può provare, allora proviamo anche il barattino e voglio vedere che cosa succede. Dopodiché se vedo che la parete c'è passo, non mi costa niente a me portarmela a casa, come ti posso dire, in tempo di 4 ore e 20 minuti se faccio la modifica te l'ho messo. Però voglio provare con l'antenna piazzata. Capito? Una volta che l'antenna è installata, vediamo il da farsi. Ok, per quello non c'è problema, se ti ripeto, sabato mattina noi ci diamo appuntamento e poi non so se vuoi scendere con qualcuno, ad esempio Gianni sa dove lavoro io, Pierpaolo lo sa, Natalino lo sa, oppure se vuoi che scendi con me, ci diamo un appuntamento, io ti faccio provare anche la portabilità dell'antenna. Allora, se sabato mattina io la barattina ando verso le 9, vieni, riprendi e scendiamo assieme. Ti porto sulla cosa, ti c'è la spina lì vicino, mi porto tutto quello che mi serve e così faccio quel lavoro che devo fare. Dopodiché installiamo l'apparecchio, mi porto anche il vato, ma c'è qualcosa del genere, se fatti perché faccio anche la modifica lì stesso, non mi costa niente, sono 10 minuti a fare la modifica, così sei tranquillo, non possiamo portarmelo qua. Ok, Pumbo, dai, allora rimaniamo d'accordo così, io alle 9 mi sintonizzo qua sul 21 sabato mattina, ok? Va bene, d'accordo, non c'è problema. Che però questa cosa dello stereo 24 volt non l'ho mai sentita. In qualsiasi caso dove ho salato il barattino non è mai successo una cosa del genere. Di esserci lo stereo 24. Di solito lo stereo sono tutti a 12. Compreso anche con Luigi Gianni Cippone. Ma non però abbiamo cambiato le cose della Mercedes, si voleva roba terrestre, quindi è probabile che il stereo valeva 24. Niente da dire. Se vuole si può fare qualche cosa, ma se mezz'ora 24 scenderà 12 non c'è problema, con due che assisto dal 12, due è stato solo 12, uno è stato solo 12, quindi passi da 24 a 12 sei tranquillo lo stesso. E lo stesso può funzionare a 12. Naturalmente non puoi più svampare meglio non devi puoi dare. Nel senso che metto 12 in cena il finalino. Andare, andare. Sabato vediamo, sabato mattina, povera. Andà bene Pupo, dai, facciamo girare, riprendi Pietà. Pupo, tutti così li stanno facendo adesso, siccome li montano loro stessi direttamente, stanno facendo il radio, tutte le 24 mosse sui camion. Ti dico anche una cosa di più, li montano sul camion, anche se sono serio buoni, sono uomini che incontro le cose così li montano. Adesso la cena non so cosa stiamo montando, ma comunque sono serio buoni, molto buoni, impianti anche fatti bene, e sono tutti alle 24. E ti dico una cosa, se si vuole calcolare la radio, tu vai a comprarla in giro, non c'è la 24, la devi ordinare da loro, da Mercedes o da Elveco, lo stesso, la devi ordinare da loro perché non si trova il commercio la 24. Sì, ma scusami un secondo, Pompo, se ti interrompo. Hai ragione, Pierpa, hai perfettamente ragione, anche perché ripeto che tutte le misurazioni sono state fatte in officina dall'elettrauto e la radio esce a 24 al 100%. Però io volevo dire una cosa, prima di installare che ne so, qualche finale, cioè qualche dati, qualche vitamina in più, io sarei stato del parere di controllare bene l'antenna, vedere un pochino di dare qualche vitamina in più all'apparato e poi se ha mali estremi, estremi rimedi, e se non va così gli si mette anche un piccolo lineare, dai. Guarda che lineare 24 ci sono, sai che ci sono? C'è il 550, c'è il 750 della ZG e vanno 24 volts. Montano gli DMRF 472 se non mi ricordo male, una cosa del genere. E pompano un bel po' di watt, sono molto più grossi di 455, però pompano. Quindi lì a 24 c'è. Ti baracchi la 24 ce l'hai e si fa che pietra tutti e due. Sono due non ce ne stanno. Anda bene, anda bene. Sì, ma fa pilota lì, ci vengono sempre la dimensione diretta alla batteria. Pupo, sono in aria che succede, che ci vuole qua attaccata. Anche se la dimensione va in cima da vita 24. E lui dice che non la può toccare quella. Comunque, ti dico una cosa, Giuseppe. La recensione è una cosa, ci vi bene, ok. Con la parecchia sta uscendo con 3 watt, scarsi pure. Se non c'hai il watt, se non c'hai il watt è sufficiente, guarda, potresti andare bene con 10-15 watt, ma con 3 watt, 5 watt, non sperare molto. Tutti i tuoi colleghi che senti, lo sai cosa c'hanno sotto, e hanno di whisky da vendere. Certo, Pierpa, sono perfettamente d'accordo con te. Ecco perché io dico, siccome la macchina ha 6 mesi e ancora ne ha di garanzia da macinare, io ecco perché volevo dare un pochino di vitamine all'apparato e già da lì io sono sicuro che la miglioria già la vedo, o sbaglio? Qualche cosa già migliora, però per uscire col camion ci vogliono fatti come ce l'hanno tutti quanti ce l'hanno, guarda la scatoletta delle sorprese ce l'hanno tutti e quelle che tu senti forti sono tutti così, non ne ha nessuno che fa un barattino normale, è difficile che le truffe, se c'è qualcuno però il barattino magari sa 10-15 watt e allora va meglio perché se no gli altri ce l'hanno tutti quanti. Meno la pompa sarà 300 watt come c'è minimo. Va bene, detto ciò è tutto quanto, è l'ora che si è fatta mezzanotte meno un quarto passata, il po' vera uno chiude battenti, vi saluta con una buona notte e saluto ai circoli. così almeno non mi dimentico di nessuno. Ciao ciao. Ciao Anto, ciao, ben facci, sentiamo un po' di tipo, buonanotte. Ciao Pierpaolo, ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime, buonanotte e buon sabato a tutti per domani, ciao ciao. Mi è dato il mio baracchino a Giuseppe, ma questo fa 12, non lo so se fa 24. Non ho capito la tariffa, se non devi vedere la baracchina a Giuseppe, eh? A provare il mio, ma se va 24, io non lo so se questo va 24 anche. Bisogna guardare le istruzioni. Non va, non va. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao. No, no, no, la carina si apprende. Neanche il mio va 24, quindi... io per parlare con lui bisogna che il porto dove la prolunga di capo, di favorezza, ecco. Parto da una batteria all'altra, quando ce la 12... E per vedere la metto glielo proprio così, se vediamo se l'antenna funziona, lo ripeto di baracchino in seguito. Capito? Sì, proviamo così, dai, total più, anche se anche se poco una miglioria per forza la devo avere. E poi per il resto vediamo, perché come ho detto, per adesso non posso fare nessuna modifica, manco nel vano batterie. Ho chiesto giusto anche ieri sera giù alla Mercedes, però mi hanno risposto purtroppo per me picche. Sì, vabbè, se domani vediamo, il sabato vediamo, il baracchino con 924 c'è il commutatore e lì siamo a posto. Lo mettiamo il 24, si modifica, quello che c'è a modificare, comunque a provare, mi portano l'alimentatore giù a 5A e portiamo l'alimentatore sopra, come si chiama, la cavia, una volta che mettiamo l'antenna, così che facciamo la taratura giusta. E così si è a posto. Poi se vediamo se il baracchino si modifica non c'è problema per quello. Va benissimo, Pompo, io sono in mani tue, più di te e queste cose non le può sapere. Se pensavo che c'è 6 mesi in camion, no? Non puoi toccare nulla, al limite è quello il problema. Modifichiamo il baracchino, mettiamo... tocchiamo il vato, il LC, quello che c'era da toccare, così me ne esce qualche cosa. E il metodo mi dà la antenna, che sia bassa, che sia stabile, che sia perfetta, non abbia problemi, che la sensazione sia a zero. Poi adesso viene da sé. Tra le stazionarie le abbiamo provate sabato scorso, e c'eri anche tu un Natalino, vero? Sì, le stazionarie vanno bene, ma l'antenna è piccola. E sarà un'antenna alta 1 metro, mi capitolai, Ari. Che cantante è? Una PC4 della Midland. Lui aveva chiesto la PC6, invece gli hanno dato la PC4, quella più piccola. Ascolta, Natalino. Ma non c'è la capire, c'è. Non l'ho visto neanche l'attacco, io non l'ho visto alla base sotto nome. No, non è attacco a PL, è attacco come le antenne della radio delle vetture. Lì c'è il foro d'auto millimetri, là? Sì, però vorrei conoscere una cosa come un cavo vero, che c'è la calza di rame. Però gli devo dare una 2001 a lui, bisogna regolare il falchetto a Giuseppe, capito? E ripiazziamo una 2001. Però Natali, c'è un problema, e come la prendo io l'antenna da falchetto per sabato? Sabato mattina lo telefoniamo e la prendiamo. E dove fareste questo? Non c'è problema, dai. Poi lo sentiamo domani a Falchetto, anzi domani mattina io lo sento a Falchetto e glielo dico già. Beh, grazie Natali, sei veramente un amico, guarda, se mi fai questo sei niente, poi saprò come sdebitarmi, dai, anche perché io poi domani mi avvicinerò da Ferramenta Carboni e prendo quel benedetto rondellone. Che cazzo, è pieno di sabbia l'antenna, dai. Ascolta Natali, un rondellone di diametro. metro da 8, va bene, 8 centimetri. Ok, va bene. E col foro centrale lo prendo da 10, va bene? Sì, non c'è problema, dai. Hai fischiato, lo sai? Com'è? Stavi fischiando a certo punto. Sì, forse non avrò schiacciato bene il microfono. Troppa roba, non c'è problema. Ok, quindi dai, rimaniamo d'accordo così. Se per te è un po' va bene, per te la tagli anche per la questione dell'antenna. E ok, e per sabato ci passiamo una scappata. Sì, ok, va bene, non c'è problema. Bene, Meda. Va bene, dai, io sto chiedendo, ci sentiamo domani allora. Saluto tutti e due. Statemi bene, ci siamo domani mattina, domani sera, sappiamo, siamo quasi un famiglia, pure di riparazione, oggi ero fuori e poi mi sono preso anche a e sono andato pronto giù, stavo per la sera a letto, facciamo un fumetto, adesso mi sono ripreso, ci siamo domani mattina allora. Sì, ok, vabbè, ciao Pompo. Ciao Pompo, buonanotte e buon tutto, e buon lavoro per domani, ciao ciao. Sì, c'era pure a casa. Non so che avrebbe sentito i carabinieri. Mi ha tagliato una frustata da cosa l'altro giorno, beh. È venuta a casa di mamma. Mi ha detto, mi ha detto che mi ha fatto andare al baracchino. Mi ha detto, vabbè, qual è se non hai problemi, forse, no. Ho detto, tirare il coso. No. Ma che modo la fa vedere dubbio? Allora cosa ha preso però le cose mi ha dato il lì. Mi ha detto quando è entrato, poi mi ha dato il lì. Incazzato, e aspetta che ancora niente, gli ho detto. Non preoccupate, gli ho detto. I carabinieri sono venuti? No, è venuto lui a casa ieri, perché gli ho parlato di gas, capito, il condominio. Appena arrivato ho fatto il gioco, mi ha detto che c'è stato l'antenna in macchina. E non c'è per la piazzata. E non ho fatto manco un buffo, gli ho detto, visto? Non ci vuole molto che c'è l'antenna in macchina. E qualche problema? Ha preso e... prima mi ha detto del tubo, mi ha detto del lì. Hai capito perché è incazzato, non poteva soffrirlo. Infatti. Ma tu il coso della concessione hai pagato la lì? Adesso me la faccio dopo domani. Pago e poi gli faccio il servizietto. Quando paghi la concessione prendi e metti la manto, ma non te lo puoi impedire lui. Se no lo denuncio perché te ne ha tirato quella lì senza dirci niente. Sì, appunto per quello. Cioè, non c'è detto che la manto va giù, è nuova ancora. C'ha 10 anni lì, è nuova. Modello vecchio, buon buon. Si è messa nuovo quella. Aspetta, è più di febbraio che gli faccio la sorpresa. Infatti. Di prepotenza la più piazzata. E poi vengateci qualcosa. Guarda che ce la sto denunciando perché ne ha attaccato quella lì senza dirmi niente. Che lì non la poteva toccare. E appunto malissimo. Cioè, le faccio fare i decreti, tutto le faccio fare. Io lo mando per posta, glielo mando. Con la legge non ho un cazzo. Così non può ricordare quella cosa. Mi raccomandata come ci butto dentro, ma così senza calcazzo. Infatti, tu vuoi piazzato qui su di voi e non ti possono dire niente. Vabbè, là, io ormai passo in QRT, vi saluto tutti, anche a quelli che ascoltano. Io passo il QRT, alle prossime. E a domani, ci sentiamo domani, là. Ciao Giuseppe, fammi bene, buon tutto. Ciao Pompo, buonanotte e ci sentiamo, buon tutto anche a te. Ciao Natali, ci sentiamo presto e buon QRT. Ciao ciao. Ciao ciao Giuseppe Trussi. Cabacaba. Cabacaba. Ecco, si è fatto un po'.